ero diversi giorni che ci stavo entrando a Baita, entri, accendo la radio, vado a rispondere a Salvatore, a Popore, me ne passa a burro la cana a Baita, proprio già ne ho le palle in terra di questa radio, poi quando inizia così peggio ancora. Ciao Gigi, buongiorno, ma futiti, fai l'indiano e fregatene. Fai l'indiano. Se tu più corda ne dai, peggio è. Fai l'indiano, fai finta che lo senti. Già si stanca. Ma sempre quello di ieri. Ah, ho fatto per segnare più alto. Seria. Per il mio, no? No. Date ti copre per orri, è più alto del tuo. No, passare dai. Sicuramente non c'è niente da fare, ecco perché. Allora parliamo, io e Rita. Qua mi arriva, la portante vi arriva a 5. E tu sei quasi 8, Salvato. Allora la passo, e fra poco non so ancora di più. Io ho capito la macchina a fare la piscina. Importante, ci sei? Ci sei? Importante? Male a provare. Se c'è da Franco stamane, boh, è parito. No, non ci stavo venendo qua intanto, non c'è niente, non so se voi state prendendo qualcosa, No, noi no, io poi ci vado poco, vado a trovare loro, Carlè, Ehi, agappa, dai. No, niente, io non ci stavo andando neanche io, intanto non c'era niente, a me mi piace niente. Proviamo fra un po' a calamari e Agappa, già va bene. Siamo a chiamarci di Nogi, là, fa vedere questo, una specie di valacchia. Carlè, non c'è il coglione pieno, no, cioè non c'è più niente, capisci? So qui a faccio di gente che non ventro, non mi interessa più, c'è sempre casino, sempre mondetta, no, non me ne ha fotti nulla. Capacca, ma infatti è per quello, là, che io, cioè, non ne ho voluto e non mi interessa più nulla. Perché intanto me ne immaginavo che è stata ad entrare, sta venendo giù il sangue, niente qua, no. A futti dinni, è meglio rimanere così, dai. No, Carlè, tu mi conosci forse meglio di tutti, di Stefano e di Luca. io gioco troppo impulsivo, la prima a farlo, è un casino, no, non fa a sé, perdo l'amicizia per cazzate, capito? Ehi, cacca, dai, fai bene, fai, dai, meglio così, dai. La buia trovate va, se no sono domande da fare pure a voi, mi denunziate, da riccia, ne rifanno, lascia perdere, a fuggitini. Non ne vale la pena, cacca, un baracchino di merda. Sempre a Luca io, no, no, non mi interessa, io faccio un carattere troppo particolare, tu mi conosci, no, non me ne fotti nulla, cioè stare lì a mattanarmi con la gente che mi rompe le balle a me mi dà troppo fastidio, troppo. Vabbè, arriva rimane, cazzo, mi incasineggio e non voglio tornare ai vecchi tempi, Carlè, non me ne fotti più nulla, oramai non sono più un ragazzino. Ehi, a K. Ti do ragione, cra, fai bene, dai. A tutti dinni. Infatti pure io ho giubissato, non mi interessa più nulla, no. Non me ne metto neanche. Preferisco uscire dalla VOMI, mi ho messo la parabolica a casa, c'ho Sky, che fosse il meglio del baracchino. Quando esco la sera, mi giro il canale che voglio, mi guardo qualche film, capito? Qualche documentario, cra, su quel baracchino, Esco con Gaimon, ne avevo a me, non so anche nulla. No, Carlè, non troppo niente di graziata, no, poi io mi conosco. Magari la poi vico, cazzo, divento travagante, no, no, no. No, mi conosco, Carlè, è meglio niente, va, lascia perdere, no, non me ne fotto un cazzo, cioè. Io li sto lasciando andare, poi perché sono sempre che sei imbecille, che si. La lighi ragazzo, mi risacco, lo godo, anche intanto io lo gioco, Carlè, mi, io lo gioco, Carlè. Mi risacco, lo godo, mi risacco, lo godo, cazzo, lo cazzo che c'è quella ruota della macchina. Cappagra, dai. Forse ci ho capito anch'io chi è. È uno, diciamo che non posso vedere neanche io se è quella persona che sto pensando io per certe cose che a me me l'ha fatta grave davvero. Io ho evitato, mi hanno fermato a me, la mia ragazza e altra gente che sennò me l'ho fatta arrestare io. Perché io sono di minuta, mi ha fatto assai, io dimmo di manco detto. Comunque forse ho capito chi è. Ma cra, non ti perdi nulla, mi è uno che è sempre più dentro che fura. Ah, lo so chi è, rubavo, c'è una mente che dobbia rattone, che fa vedere anni fa con noi, quando va via le baracchine della macchina. Ghiscio è me, ve la giudica a Luca, è Ghiscio. E boh, il giorno che lo trovo ne attacco la testa. Cappa, ma siete andati a controllare, cosa avete fatto? Oh, Carlè, non è un caso da controllare. In chi vedo e boh, a chi lo segnale è Ghiscio. Io sono andato sotto casa sua, l'ho detto anche a tutti, il segnale è suo e boh. Non venisse altro il segnale che arrivi così, a meno che non ti metti vicino a casa. Siamo andati a misurare il vicino, lo vecchietto, in chi il vecchietto, cazzo, non è lui, e non è lui. Gli altri non sono loro, chi non ha tempo da bici con noi. Edo, imbecille, handicappato, cazzo, docico. bravo, già è quello che sto dicendo io, dai, già è quello lì. Infatti, Luca la volta mi ha chiamato, mi ha fatto uno studio, l'ho richiamato, cazzo mi ha detto che era Graziano. Graziano quarantenne, già non ha lì, non ha più baracchino, non so quanti anni è, non ha più. L'antenna l'ha lasciata perché sul tetto non si può salire, perché gli hanno fatto già casino, al fratello mi sembra che l'avevano nel culo denunziato, perché ha rotto delle tegole, capito? Cazzo Graziano bisogna un baracchino, quella cosa che va, povaraccio, non è manco Bussube e sta pensando, no, comunque no. Io me l'ha detto, infatti la mia ragazza si è anche adirata di non cercarlo, dietro non entra nulla, capito? No, no, Carlè, no, dove ha giudito Luca, no, dove è Guido che ha giudito io, e boh, perché il segnale è quello lì, è compreso, è Guido, siccome è stato sempre handicappato, continua a essere handicappato, è un piratone appoggiato da Robabo, è compreso, ed è lui, se ti ricordi è Guido di Carrasciari, capito? Con la maschera, chiama il compreso, dove boh, che ci ricordi un ciaffo, giù una volta a Plattamona, a Rotonda, che sta sempre in mezzo ai bagagli, ci ricordi un ciaffo, oggi non si entra, entra a Rotonda e fa il gatto, la circonvallazione. Ehi, ma non ne valerà bene, a fatti dirmi, non valerà nulla, hai capito, non valerà niente, dunque, è un casino, è peccato un casino, questo baracchino, vedi, molte volte, sì, io me lo volevo mettere magari, ma poi ma senti, guardate che mi ha chiamato Guido a casa, mi ha chiamato per dirmi che c'era Graziano, che c'era il balacchino, lì, là, ha detto sia cose del genere, vieni, ha detto, boh, fatti che da burro, ma non ti mettere il balacchino qua, e allora niente, ho inventato tutto qua, vaffanculo il balacchino, sono andato, ho chiamato e mi ha fatto mettere la parabolica e boh. Carlo, tu sei peggio di me, ci conosciamo 20 anni, no? Forse siamo dei primi della famiglia tua, ci conosciamo, no? A parte Stefano, però conosco prima te che Stefano. E ti dico che non le va bene, non lo mi gioco in trend, proprio perché mi riesci a rendere balle. C'è gente che mi sta sulle balle, Carlo, e non lo posso soffrire, capito? Che siamo entrati a fare due giacciari, in 3-4 bastoni è entrato questo montone in garraggio che mi fa schifo solo a sentirli. Capito? E se mettiamo in cazzo, anche voi magari mi dico, voto e mi incazzo, allora cazzo sono troppo cattivo e allora ho lasciato perdere, non c'entro più, non me ne affutti nulla. Ehi, aga, un attimino calcio dal telefono. Vai, vai, Carletto. Ciao, Carletto. Via, a posto. E dimmi, bella. Ciao, Carletto. Ciao amore. Ciao tesoro. E beh, come va? Come vecchi, Calè? Cazzo, come vedi? Già vecchiaci. Oramai sì. Eia, mi sono andata a salutare a Claudio, maglio amico, che... va bene. E così, Cla, dai, a futidini, domani se ci vediamo, ci beviamo un caffè giù, là. Già ci passo, ci scendi. Senti Carlè, che domani mattina ti beviamo lo caffè, già lo sai, la domenica già scendo lì, se ci sono loro già scendo, capito? E ti beviamo lo caffè, perché è uno schifo, dai, non ci sto più entrando, sono con un paio di chiedi che non entro più, no, non, li ascolto ma no, non mi interessa, capito? Non me ne affrutti più nulla, è troppa gente malaroccata che mi porta a avere poi in caso quella disperazione che tu conosci, no? Ehi, acca. K, va bene dai, a futilini, io sto uscendo, adesso sto andando a prendere la signora che devo andare a Conforama a comprarmi uno scaldino per il bagno, mi pagandomi il vostro la luce, mi sono mi pigliavo freddo. A lui Carlè. Cosa? A lui nuovo, non te lo prendere, te lo scendo domani mattina. Va bene, come vuoi, se ce l'hai Cla. Ah, che veraggio nuovo, c'è un nuovo in garage. L'avevo comprato l'anno scorso e ce l'avevo a carbonati, la voi sapevi, avevano fatto un altro tipo di impianto e non lo uso. Non lo prendere e te lo do io, domani mattina ci vediamo e te lo do, Carlè. Ok, Clara, va bene. Grazie allora, dai. Lo volevo prendere perché siccome sono una stufa, ma ho visto che noi cadi acciaio, una stufa elettrico, e allora ho detto che prendo uno di quelli ventolati, no, che mandava lì a caldo bagno, non so se si chiama così. Caldo bagno, questo vuole dar morta, poi c'è lo sportellino, è bellino, te lo voglio domani mattina, Carlè, mi do una macchina e domani a Manzano, prima di farmelo bongo e lo goffo, non lo prende che te lo do io. Ok, grazie. Via a me invece di caldo. Va bene, dai, lasciati muta tu, guarda, non ti puoi immesso. Ma vuole se non cattivi una stufa di quelle che non consumano, di chi si catalizzate, la uovo sei? Lo scaldabagno! Sì, a luci! Tornaggio scaldabagno, c'è Caterì, vaggio mio, uno scaldino, e lo caccarletto, e lo caccarletto, ma se uovo sei, vaggio anche se tuffi, quanti si chiamano, a catalitiche, boh, non lo so come si chiamano, che io non lo so più, ce li avevo. Capito, in garage tutti in garage. Ehi, va bene Cla, dai. Andiamo bene. Capirà, dai. A palle rosmetro. Domani mattina te ne lo scendo Carlè, non lo pigliare, che ce l'ho nuovo, non lo uso io. E chi mi in garage è andato lo scaffale, nuovo. Però se ne andrai più di là. Certo io domani mattina te lo porto giù. Ok, grazie, andiamo bene, dai. Io vi devo lasciare, dai, che devo andare a prendere la signora. Ci vediamo domani mattina, Cla, dai, buon proseguimento. E domani ci prendiamo un bel caffè, dai. Ciao anche a principessa, dai. Un bacione, ciao. E lì a principio c'è una 140 in gomma, cazzo, devo attaccare l'antenna esterna sempre. Non la sento, ho visto una radio un po' particolare. C'è una chiamata a Luisa, allora c'è la Caterina. Carlessi, vediamo domani mattina, ok? Ok Claudio, dai, va bene. Ciao ciao e anche saluti da mamma, dai. Ehi, a contraccambiarti, cazzo. Tu non mi senti. Ciao ciao, ciao Maria Luisa. Ciao Carlessi, Claudio, sei sotto, tu non mi senti. No, la telecamera si sente male a lui, c'ho il ricevitore acceso e sto parlando col portatile, tu mi senti? Io sì che ti sento, ma tu sei sordo, vabbè, ciao ciao che vanno a fare cosa, ciao! Ehi, ehi, se vede tuo cognato, dille a vedere se devo chiamare a chi l'ha visto, chi mi ha dato appuntamento stamani, come ti faccio sempre Edo, e so che tutto il mattino si sente, ho il telefono a casa Giulia. Senti? Va bene, se non mi senti, ciao! Dimmi a tuo cognato, se devo chiamare a chi l'ha visto, ciao! Giù! Giù, giù! Giù, giù! Dai, dai! Dilli, mascherato, è finito? Dilli, mascherato, è finito? Luca! Lu! Dilli, mascherato, è finito? Prova di giro, vedi! Mascherato, dalla te dolce! No, non ne faccio nome, già sa ciappa, più male. Oh, Bobo. Il Tore, quello l'ho visto di l'unica, che gliel'ho portato a fargli dare una regolatina a Lecco, l'hai sentito e alla radio quell'apparato adesso a Tore, l'hai ascoltato questi giorni? No, lui, negativo. Ma te la ricordi la radio di Tore? Dammela forte quella radio lì, solo... No, che sta ascoltando. Dimmi. Beh, cosa fai stasera? Eh? Cosa fai? Oh, sto dicendo quella cosa, Mario. 10 minuti, un quarto d'ora e poi passo di moto. È morto. Bisogna che capire, lo sai che c'è quello che ti vuole mosticare la mano. Non dovevi togliere stamattina tutte quelle cose lì, dove veniva tuo fratello, non so poi. Ti va. Ciao, ci sentiamo Lu, divertiti con queste teste di cazzo, ciao ciao. Via, yeah. Ciao ciao Cla. Pronto. Ah? Vedi che Roberto, cosa ha scritto a Denise? Scritto Denise domani mattina o sera, la sera di domani sarò a Uri. Che ti vai che è trappato, non mi trattengo, mi stavo guardando energia, Irvi mi stavo guardando Irvi, aspetta un attimino, aspetta, fa telefonata un amico veloce, aspetta lui, accucciate lui, continuate, ma sta appena Prova la telefonata, siamo ok, no, ho telefono adesso, aspetta. Via, Rita, dai, non tanto sono problemi, io ti ascolto sempre, anche se non lo ascolto, anche lui lo supera adesso. So già che non ti interessa, sto vendendo il Magno, un ARA 48, uno di quei due che ho io, modificati, che ne ha già truppi e non me ne faccio nulla, ma il Magno è bellissimo, solo che costa troppo, Rick, costa troppo quel Magno, capito? Molto. te lo sto dicendo, 300 euro costa. Costa 300 euro, quanto l'ho pagato io, 300 euro, è nuovo, quello già puoi dire che c'ha di tutto e di più quell'apparato lì. però te lo sto dicendo, però non so neanche se ce la fa quell'alimentatore che c'hai tu a portarlo. Non sei buono, che se no Stefano mi chiede il divorzio poi. Positivo, te lo volevo prestare, però tanto ti brucia subito, non ce la fa quel trasformatore che c'hai tu, hai capito? Perché quello già esce già con 47 watt, 45, 47, quasi a 50 arriva e non ce la fa, dai, ho visto nel mio che assorbe parecchio e non ce la fa, non ce la fa proprio. Vediamo un po'. Ma poi lui non ce la fa, lui non ce la fa a alimentarlo con l'alimentatore, è troppo piccolo, a meno che usa pochi watt, allora sì, ma poi aumenta, lo butta a terra, non ce la fa. Non sto dicendo io. Piano, dai, lui, piano, mette i soldini, invece di prendersi una cosa, li mette a parte, tanto non fuma, non ha pizza, non ha nulla, adesso lo compra però piano, un monachino, poi un microfono e così via, dai, l'alimentatore soprattutto, quello che serve di più, dai, piano, già si attrezza pure via, ma ok, si rompe le scatole e stacca tutto, come ha fatto un di gente. Ok, svendendo. Chi? Io? No, nulla. Sono Luigi, sto dicendo. E a chi è che? Claudio? Claudio, sei tu? Claudio, questo. E io? Claudio? Ciao a tutti, ciao. Svendi, ciao, arrivederci. Ah, sì, vedete, ma mi intendi o non mi intendi? Ciao. Ma chi era? Claudio era. Claudio, ma sei tu chi era? Sono io, ho venduto a 400, non vendere a 300, ciao, arrivederci e buon viaggio a tutti, divertitevi, ciao. Ma non sei trattenente, perché stai uscendo in questo modo qua, che io, sei riconoscibile Claudio, se sei tu, io così non ti riconosco. Non c'è problema, meglio non mi riconosce nessuno, ciao. Ma già vai, non sono ricrimusciacca, la taranta, ma già vai oggi? Oggi? Sono un mese non vento, ciao, fatti fare la mano, ciao. E io sono entrato appena oggi. Era un bene, almeno mi sentivo lo stesso. Vai, quanti ci telefonate e poi te la portate, vai dalla scena. Furbo, oh ia. Vabbè, comunque già ho messo le macchine in moto, una macchina in moto, vediamo un po', se lo scopre. Adesso se la sta fischiando. Dice, per domani mattina sì, ma ti penserò, ma detto stasera io dopo 22:30, entra in chat. Ascolta Luigi, mi senti, sì? Beh, adesso lo ascolto, adesso lo sento a Claudio, quello che conosco io in radio, sei tu. Perfetto, allora ti dico una cosa solo, sono 15 giorni che non c'entro, non mi interessa più entrarci, questa non è fare radio, questo è uno schifo locale per la città di Sassari e per tutte quelle persone che le piace fare radio. A me non interessa fare radio a questi livelli, pertanto vi auguro di continuarla a fare fino a quando volete e divertitevi, ok? Ciao a tutti e basta, io vi ascolto sempre perché mi fa piacere ascoltarvi, ma non mi interessa più parlare. Ciao a tutti, fatti vedere domani. Ciao Claudio, ma anch'io non sto entrando, mi sono un po' scocciato, ho capito, per tanti motivi, non per questi che ci sono, per altre cose che disturbo, quelle e quell'altro mi sono scocciato, infatti guarda, ero già 2 o 3 giorni che ho sono di più, non mi sentivate in radio entrando qua. Sono entrato oggi perché ieri ero tutto il giorno a casa e non mi ha sentito nessuno, non ho acceso mai, non ho acceso la radio per nulla. Ieri ho lavorato, ero a casa, tutto il giorno a casa. Ho preferito mi stare tutta la mattina con il cazzo che era a riposo e anche di tutta parte del pomeriggio e non mi interessava nulla. Mi ha chiamato Pinocchetto Moro a accendere la radio che non ci sono acceso per nessun motivo, non ho attaccato per ieri, non voi non mi avete sentito e non sono entrato per nulla. Mi sono scocciato pure un po' io, te l'ho detto già poc'anzi, lo stavo dicendo a Luca, a Rita, mi sono anche scocciato io, però ogni tanto, non lo so neanche io, là. Comunque ognuno fa le sue scelte. Ciao Claudio. Sono scelte buone, Luigi, ti ringrazio, ciao, fatti vedere domani, ciao anche a Rita, un saluto a tutti quelli che mi conoscono. È una vera vergogna, è una vera vergogna, ma una vera vergogna che ti piace fare radio debba essere costretto come me a fare in ascolto, perché è una vergogna. Ciao a tutti! Anch'io devo stare in ascolto, Claudio. Quindi che ho detto poco fa, c'ho il magno, non lo posso attaccare, c'ho quello, non lo posso attaccare. Infatti cosa ho detto? Me lo svendo, perché tanto me ne faccio nulla, me li vendo, non li posso attaccare, non li posso operare, me li vendo. Mi tengo questa radio, mi metto a questa e basta e buh. Infatti me ne vendo anche una di quelle Ara 48, me ne tengo uno solo. Basta, mi tengo questa che ho adesso e una Ara 48. Le altre non me ne tengo più nulla, me li vendo, non me ne faccio più niente. Me li vendo proprio. Lui, non ti ho capito, ci sentiamo domani, ci vediamo di persona al caffè. È meglio vivere che convivere. Ciao a tutti, buon divertimento. Rimarrò come gli anni scorsi. Ciao ciao. Ciao Claudio, ciao. Va avanti Rita, se ci sei. Ehi, ciao Claudio, ciao ciao. Non gli do tutti e tutti io a Claudio, non gli do tutti e tutti, guarda, perché anch'io mi sono mezzo proprio, infatti io mi incagno, mudro con gli amici, sono a ricagliare cose, infatti ho deciso, tanto ho quegli apparati e non li posso attaccare, e quello che mi telefona, che mi manda le composte, chi dove sia, chi dove sa, ma io, c'ho le cose, non posso, mi vengono le cose, se sul tetto buttarne giù l'antenna pure, se stava venendo quel coso lì, mi buttarne giù l'antenna pure, mi sono proprio scocciato, veramente, proprio scocciato. Metti via il video, attacca di tirare le luci, sono importante. Tanto non vuoi altro che fa sicuramente, per disturbare la gente, carità, le montagne non si incontrano, ma le persone si incontrano, un bel attento, un bel. Luca, ti dico un'altra cosa, a Cagliari, in Oristano ci sono rimasti Fisio, in quella zona di Oristano qualcuno, in Cagliari ce n'era una bella greffa, ti dico, una greffa grossa, non so che fine abbiano fatto, non ne senti più uno, una decina che ce n'era, che sentivo ogni giorno, entrava a parlare nel canale 8, faceva la chiacchierata, sono mesi e mesi, non ne sento più, anche lì ci sono rotti le scatole, quando arrivavi lì avevano questi problemi, ecco, quello con la portante, è quello così, è quello con là, ne siamo una bisticciana, però sarà un 4-5 mesi che non sento più nessuno, non c'è più nessuno in radio, se poi entrano la notte per i fatti sui non lo so, però durante il giorno non c'è più nessuno, tutti sul canale 8, come voi siete sul 10, io ero sull'8, nulla, morto completamente, non ci sono più. Lui già lo so, me lo posso immaginare, uno alla fine poi si scogliona e via, dai, spacca tutto, perché stai lì a, insomma, a dire cavolate, parolacce soprattutto, vabbè, tu non ti preoccupare, lui, che si trova, fidati, tu lasciamo fare a lui, sta continuando a farlo, è già in movimento, ma appena succede qualcosa fammi sapere, gli ho dato le coordinate, mi ha dato un posto dove andare, adesso vediamo un po', sta misurando, allora tu così non farai a fregatene, vediamo un po', poi mi chiamerà sicuramente, scenderò in moto io, e poi vediamo, sputtaniamo chi è. No, ma a me non mi dà fastidio, amico. Questo qua non mi sta dando fastidio, a me dà fastidio più le altre cose, Luca, di questo qua. A me non mi dà proprio fastidio la portante, perché c'è ma come non ci sia. A me sono altre cose che adesso. Continua la portante. Fastidio. Adesso sto dando fastidio, è questo che mi rompe le scatole, capito? Che mi rompe le scatole a me. E allora non mi va più di entrarci a parlare, che perché mi telefono dicendo che sto dando fastidio, capito? Entro nella televisione, addirittura mi sentono nella televisione, la cravia. Non lo so, purtroppo qua c'erano tutti quell'alimentatore di ad antenna, perché se no senza quell'alimentatore non prende bene la televisione. C'erano tutti e allora il casino è quello lì. Hai sentito? Io so di Salvatore Maestrale, di gente che ci abitava vicino, mi ha detto che infatti lui non sta più entrando, questo problema lo devono risolvere con Salvatore Maestrale, la stessa cosa, sono amici miei, stessa gente che conosco, me l'hanno detto, dice dà fastidio quello che ce l'hanno vicino e do fastidio pure io, ma quello dà più fastidio di me a quelli che sono vicino a lui, c'è gente che ci abita di fronte e gli dà molto fastidio Salvatore Maestrale. Cosa posso, gli si entra ogni cosa nell'impianto dello stereo, ogni rugolo entra Salvatore quando attacca la notte. Ma infatti io non è da Salvatore, usa la potenza normale, ecco, e poi se lui usa più watt, lui si sa che disturba, lo sappiamo tutti, però se lui usa la potenza giusta, senza esagerare, vedrai che non disturba. Vabbè, ho notato che Salvatore ha anche l'antenna bassa, è molto bassa, ma la metto della mia che è bassa, figuriamoci la sua. Che quello vuol dire, ma la solleva di 2-3 metri non disturba più, mette due tiranti e via. E il problema, Luca, è questo, che qua hanno tutti l'alimentatore per l'antenna, se tu non metti questo alimentatore non vedi televisione, vedi nebbia. Io ce l'ho la stessa cosa, io ho fatto le prove, con l'alimentatore non vedo la televisione. Senza l'alimentatore con la parabola non mi dà nessun fastidio, capito? Col decore, come lo vuoi chiamare, con quello non mi dà nessun fastidio, con l'antenna e con l'alimentatore sì. Qua giustamente tutti, questo c'è il vano qua vicino nell'altra via dopo il bar, dall'altra parte, lui si è piazzato l'antenna, non c'è la parabola, ha piazzato l'antenna, non vedeva nulla, è andato e si è comprato questo grosso alimentatore, l'ha messo e vede bene chiaro chiaro, addirittura non è che le faccio le righe, no, senti anche la voce mia nella televisione quando parlo io, mi sento addirittura dentro la televisione. Però purtroppo se lui non mette questo amplificatore non vede televisione, tu dici ma te l'ha vietato, ce l'ho anche io l'amplificatore, lo so però anche io, quando non sto parlando me ne vado a accendere la televisione, mi attacco quello lì, poi mi cambio, mi metto con la parabola, però a volte ce l'ho così e se attacco il coso non vediamo la televisione, non la vedo neanche io la televisione perché mi fa tutte le righe, mi oscura le cose, capito l'immagine, capito Luca? Lo so, comunque non ti preoccupare che sta entrando il digitale terrestre, poi è obbligato a comprarsi quello. Siccome questo tipo qua, che tu disturbi, non è neanche il furbo, come te fai la prova con il digitale terrestre, perché se lui non vede il televisore normale, cioè con l'antenna normale, come ce l'ho io ho amplificatore di antenna, non ne ho, perché non ne ho bisogno, perché molti non ce l'ho davanti. Se lui usa il digitale terrestre, ma dai che il problema lo risolvete. Ce l'hanno tutti questo amplificatore, capito? Io lo stesso ce l'ho da anni, se non metto quello non vedo televisione, per vederla bella chiara e poi tutta quella nebbia devo attaccargli quello lì, capito? Se io stacco quell'amplificatore io me lo devo scordare, non la vedo bene la televisione, e tutti ce l'hanno qua, ottava, capito? E ce l'hanno tutti, non è che ce l'ho anche io, capito? C'è qualcuno che non lo adopera, però quello che lo adopera gli oscura la televisione, gli fa le righe, non lo fa vedere bene la televisione, invece lì a casa di voi vi salvate per quel motivo lì, perché non hanno questo amplificatore, non hanno bisogno di questo amplificatore d'antenna, capito? Se avrebbero avuto l'amplificatore d'antenna allora avrebbe finito il casino pure in Kiwi, se sarebbe stato nascosto di volte vedeva, ma qua purtroppo c'è bisogno di questo amplificatore per vedere le televisioni, se no non le vedi. Lo so perché Montero è più distante da voi, dai, non avete segnale, allora che ha bisogno di questo amplificatore per amplificare il segnale. Poi non so, ricordate una cosa, l'amplificatore più di B di guadagno è più mondo te la prende. Ecco perché fa rientro lo baracchino. Comunque tu chiedi a questo qua, a chi di subito oltre a quello, altri? E altre due che ci sono in quella zona lì, quando attaccano, secondo se stanno guardando la televisione normale, così, videolina, questi canali con l'antenna normale, gli entro della televisione, qualcuno gli entra anche così. Era questo che non c'ha parabola, va nuda, che è andato a abitare da poco, niente, niente, gli ha dato questo, l'ha comprato questo amplificatore, infatti ne abbiamo parlato l'altro giorno. No, ma chi mi ha telefonato l'altra notte, abbiamo fatto le prove, l'ho messo a zero del tutto io qua alla radio, proprio come adesso, e non era forte, ma mi sentiva, passo passo mi sentiva lo stesso la voce dentro e gli disturbavo la televisione, capito? Entro direttamente con la voce nella televisione, capito? Anche nel canale dove sta guardando, capito? Vabbè, comunque c'è scritto nella prima concessione, vabbè, non c'è scritto proprio, ma si capisce che non devi disturbare né telefoni e né TV, ok? Se tu disturbi lo stereo, il problema non è tuo, su quello non ti fanno niente, proprio niente, nulla. Se tu entri nei telefoni quelli, no telefoni, telefoni quelli di casa, e quelli la TV, allora sì. È un casino, quello è un bel casino, però se entri nello stereo non è colpa tua, perciò dello stereo fregatene, fai finta che non esista lo stereo. Ma io ho fatto le prove con casa, con tutto l'impianto elettrico che adoperano loro, amplificatore per l'antenna elettrica, per la chitarra elettrica, tutte quelle cose abbiamo messe qua dentro in garage, addirittura vicino all'apparata, nulla, non faceva nessun problema. Invece prima con l'altra antenna sì, lo faceva, con quella boomera. Gli entravano nelle casse, della chitarra, come si chiama, si così male. Mix amplificatore di cose, gli entravo lì dentro, invece quando ho messo la antenna non gli fa più nessun problema, fa solamente le righe e attacco con quell'amplificatore, io ho uno piccolino da già 20 anni e fa le righe nella televisione, come fa vedere la televisione in poche parole, però se lo metto con la parabola, boccia alcuni, l'apparato che voglio, lineare che voglio, dare nessun fastidio, di nulla proprio, capito? Luca. Allora, un attimo che mi chiamo, un attimino. Allora lui, la boomerang diciamo che chiamiamola così, dai, direttivo, dai, perché non è un'antenna come l'avanto fa. L'antenna l'avanto va a sparare dappertutto. Sicuramente come tu l'hai puntata l'antenna lì, faceva rientro negli amplificatori e male fare, ma se con l'avanto fa no, perché si spara dappertutto. Perciò, come si dice, non mi viene il nome, come si dice qua, come controllo come sta uscendo, 3, 4, 5, 6. Qua è dentro un sacco di gozzo, di cemento, buon po', c'è tutto buon po'. Sacco di cemento. Ah, il televisore acceso, vabbè, aspetta, la applicazione. Ok, adesso meglio ti va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Pomponio, sono Luigi, mi ascolti? Ehi, dimmi lui. Ascolta, Pomponio, perché tu ti chiami Antonello, non ti chiami anche Antonio, però ho detto a Donna Claudio. Un mio amico mi ha chiesto che aveva lasciato un baracchino lì da... io sto sempre indagando perché a qualsiasi caso l'ha preso per riparare, ha lasciato un apparato lì dalla GBC. Non è che per caso l'hai preso tu a riparare, no? Non ti entrati tu la GBC? No, io la bella GBC non ne ho purtroppo. Ce l'ha un ragazzo che aggiustava, non mi ricordo come si chiama, comunque fa VUE, fa la 27, fa roba di VUE. Devo si chiedere a Torino, perché a quanto pare Marco lo schema era tornato, c'era un libro di schemi, Marco quelli era tornato a Torino. Devo si chiedere a lui, quindi proprio la GBC non è neanche uno io. se avessi avuto più volentieri che aveva catarlato, perché cioè avere sbagliato non mi interessa averne quali gli apparecchi così. Riesco a trovare parole, una volta messo a posto puoi dirglielo, capito? Ma non è che per caso si chiama Antonio questo qua, no? Ah, la verità non mi ricordo come si chiama quella ragazza che riparava la roba, so che ci siamo belli baracchini che non ha mai tornato, me l'avete detto tu, io mi ci ho degli apparecchi, non mi ha più trovato. Ogni volta dice che ci vado, dice non mi risponde mai, ha detto, e so che c'è una bella roba piccolina, una cosa del genere. Tonino, chi è questo della CBC? Ah, poi mi avete chiedere, lui già so ricordo il nome, come si chiama, nome e cognome. Adesso mi ricordo se vi ha chiuso, lo vediamo noi col laboratorio. Ascolta me, perché questo gli ha lasciato dal mese di maggio, giugno, adesso non mi ricordo, di maggio mi pare, e l'ha lasciato lì alla CBC, se conosceva qualcuno che lo riparava, lui l'ha dato a questo qua dice non lo... E non riesce più a avere il baracchino questo, l'apparato, non riesce più a avere l'apparato questo, è un amico di Torralba, mi ha chiesto a me se riusciva a capire chi era questo qua, e ho detto, boh, io non so chi sia, non ne ho la minima idea, detto, prova a chiedere a qualcuno se riesce a recuperarsi l'apparato, capito? Questo dice che aveva il numero di telefono, se trova più il numero di telefono o questo della CPC, io sto parlando del grande, come si chiama l'anziano, il suo Lugmanno? Anziano, Tonino sta dicendo, non Massimiliano, ma si vede quello che dice il giovane, che lavora lì. Tonino, me l'aveva detto un giorno, ma non mi ricordo neanche più come si chiama quel ragazzo, so che c'era un laboratorio piccolino in via Chiusa, poi diceva, mamma mia Antonella dice, ho fatto una volta stata in cerale, dice, deve istituire roba di una quindicina di apparecchi della Midland, che non ha più trovato nessuno. Mi pare che abbiamo venduti, insomma, una cosa del genere mi ha detto, dice, mi dava gli apparecchi, poi spariva la circolazione, non lo trovava più a lui. E poi certo si lamentava contro mio. Ho trovato sto uscendo male, pum. Ma, non capisci tu, o lui? Ha guardato da questo... Pum, sta facendo un bel male, c'è tutto... Ma l'importante c'è Luca. Io se conoscevo questo qua, capito? Perché questo gli ha lasciato in buona fede lì alla CBC a Tonino. E poi lui diceva ogni tanto, dice non riesce più a rintracciarlo, dice non si fa più, dice ho perso spesso il numero di telefono di questo qua, dice non riesco più a rintracciarlo, dice non so come fare per fargli avere l'apparato. Di Luca adesso questo gli ascolti meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo la porta a via, Pompu, qua. Ti puoi anche offendere. Ma fa veramente pietà una modulazione, ma pietà veramente. Se la lasciamo talmente male, sei tutto cupo, sei tutto boh. Non ti capisco, Non capisco una parola. Boh. Non so cosa dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora. Ah, mi crocco, adesso. Non sto usando il cable, sto usando un inter che è FM 800 lì. Capito? Adesso sono più distante dal microfono. Adesso sento una specie di gracchiatura. Dopo lo guardo, dai, un attimino che mi concentro. No, sicuramente c'è la portante, Luca, la portante che lo sta coprendo, hai capito? Luca. Oh Giulio, no, tu la copri la portante. No, tu la copri la portante, Pompu. Allora è la portante più bassa di te. Non andavamo per quel motivo lì. Oh, lui l'ha fatto la portante, Pompu, io a Vuglia. Ce la mangio, non la sento neanche io. Mi passo la portante, Luca. giù adesso. Ok. Lui, la potente non mi passa? No, no, no, non ti passa, ma ti fa quel suono che hai visto, della portante come la faceva Pompone, dai. Tu lo superi però, si sente sotto che c'è la portante, capito? Lo superi però, ce l'hai sotto la portante, capito? Ho capito, è quello per tutti, anche quando muovi tu, la stessa cosa. Però già passiamo tutti, già fatti dini, allora può anche continuare il cavassone di luci, non ci sono più niente. Vai, vai, Luca. Fatelo continuare, fatelo continuare, parlate Giulio, parlate. Appunto, sto dicendo, può anche continuare, tanto se non c'è da fastidio, non ci sono problemi. Non bisogna un problema, Zanacchi, il sardo io non so parlare, comunque c'è tu una testa, beh non va così lui. È positivo, non c'è problema, quel fastidino del coso che ti fa, della portante, ma non è più coso, c'è anche il Rita, non so se c'è ancora in ascolto. Rita, ci sei ancora? Sì, sono in ascolto. È positivo, positivo, è tratto Giulio, non so se penso già l'hai ascoltato. Veramente, sono di me tutti qua, scusate un attimino, io non ho capito nulla quello che ha detto Giulio. O ci avete parlato sopra o c'era quello volo portante che superava Giulio. Giulio, uscivi a tratti perché c'era un altro che stava parlando. O ci stava parlando sopra uno sopra l'altro, o c'era la portante che era più alta adesso. E le cose sono due. Adesso a uscire bene, in linea di massima, in tanti anni che io ho un baracchino, guarda, ho sentito quasi sempre quelli che fanno quel mestiere senza uscire male in frequenza, chissà perché. Giulio è attaccato questo e sta arrivando 9 più 30 a me. La portante mi sta arrivando a 9 più 30 e la 7 è passata a 9 più 30. Ecco che posso fare. Evidentemente lì vicino a te, non lo so. Continuate, cacchio, continuate a parlare, fregate, continuate, Giulio. Luca, copre a tutti. Continuate a parlare, cazzo. Sì, per cui sto parlando. Non le faccia parlare, se non vi sento. Ma poi continuate, fate gli indiani. Fare. E allora, che cambio un baracchino? Questo è al monte. Voi continuate, cavolo. Se da paura a Claudio ho dato a caduto. Continuate voi, poi non vi preoccupate, continuate. Ma... Io ho tempo 5 minuti, massimo 10 e ti trovano. Tempo 10 minuti ti do e ti trovano. Vediamo un po' se azzeccano. Di mettere fissa per un po', tieni la fissa, vedrai che ti trovano. Dai, tieni la fissa se sei uomo. Mi senti adesso vita? Sì, Giulia. Allora può anche continuare, penso quello, no? Non ci è stancato ancora. Insomma, ogni tanto c'è qualche imbecille che la madre lo pattolisce o lui. Gente che non sa cosa fare, non hai capito? O si vergogna, non si sa questo che problemi ha. E che problemi ha? Il problema è che se dovrebbe sbattere la testa al muro tutto lì e non lo vuoi fare, freghiamoci, non ci interessa più di tanto, guarda. Luigi, mi senti? Positivo che ti ascolto, Giulio. Il problema è cos'è? Quando stiamo facendo una chiacchierata tra amici e coso, il radio tra lì ti interrompete le scatole, capito? Ho iniziato a parlare, non c'era nessuno in radio, proprio ho acceso la radio, non si sentiva nessuno, ho sentito che ha fatto chiamata Bobore, l'ho risposto, come andava a parlare Bobore, poi c'era già la portata, ma che come? Sono detto due tre giorni che non sto entrando in radio, come entro a Probocca, c'è già la portante pronta sul 10, mi sembrava una cosa proprio, non lo so neanche io, guarda, non lo so definire neanche io, Giulio. Una portante che arriva da Monte Prosecco, qui non ci sono problemi, la portante è di Bacci, e dunque è soprattutto che può arrivare da Piano Luca, che è da Bacci, e di a Monte Prosecco, vabbè. Può darsi che adesso abbia cambiato idea e si sia buttato al ponte lì, visto considerato che non sapeva cosa fare, potrebbe fare anche quello, se ci fa comodo. Questo è al monte, sicuro, no, il mille per mille, o di più. Perché non lo so che a monte, Luca, già lo so io che a monte. Qui i segnali sono tutti registrati, sicché so da dove arriva, non è un problema. Allora, è il mio, eh? No, tu sei più lontano dal monte, tu sei al monte. Tu sei in sottoscala, sì, tu sei in sottoscala. Come è in sottoscala, sa? Salutoni Rita, Luigi, Lu. Tanto e l'ho conosciuto da è solo ubriaco, capito Maro? È solo ubriaco, perciò non le ho poi cancarato quel dito mi vuole. Il dito cancarato, come dice Manolo, quel dito vuole cancarato. Mozzato vuole, non vuole cancarato, vuole mozzato, poi non so mangiare lui stesso. Luca, mi senti? Tra un po' vi dico chi è, continuate voi, tra un po' vi dico chi è, va, continuate. Non pensare Luca, tanto non ci riesci, che non è da adesso questa storia. Quanti scommetti tu, Mano? Quanti scommetti? Poi anche decide, uno pippi è puro. Poverino, beh, vabbè, dai, facciamo così, dai, ecco qua, avanti. Meglio ti senti così, Mano? Sì, che ti sei, quando hai cambiato oggi ti sento meglio. Ma se... sono lì, è inutile che copre, è più alto di te. Per forza, è lì al monte dell'Oceano, per forza, è lui che deve coprire, ci mancherebbe altro. Ma l'efficienza sarebbe, perché la portante poi non riesce a coprire, sei in quel più, sei capo di volo e basta. Vabbè, allora facciamo una cosa, facciamo due ruote, parliamo noi qui della zona e voi della zona lì, così almeno non ci disturba. Vai lui. A me mi copre sicuramente, perché buonasera a Manolo. Manolo lo copre in pieno, a Manolo e a Maria me la copre proprio di brutto, Non te lo lascio, io non lo ascolto proprio perché lo copre. E penso che lo faccia anche per me la stessa cosa, Giulio. A te lui ti dici a perino a passarlo, ma di poco pure, ma ti disturba di parecchio, capito Giulio? Non lo so, perché è uno dei potenti dalla parte di Sassari, hai capito? È uno che ha la febbre alta, è per quello, ha bevuto qualche bicchiere in più e adesso sta schiacciandosi le ossa. Che lo schiacci è nella del comune, lo schiacci. Rita, lo sai chi è nella del comune? No. Lo schiaccia pietre del comune. Cervelli ci vuole. Continuate a parlare, continuate, lasciatelo fare. Lasciatelo fare, che lo facciano appesi a lui. Sul banco della matatoio. Continua, bravo, vai. Continua. Continua, però tieni la fissa la portante, tieni la fissa. Io Luca, che non la portante. Buonasera. Amore, devo entrare io, sono un evento, non sta più mettere, metti la portante, fissa però, fissa. Se no non vale, Stiamo giocando a nascondino. E quello che sta nascondendo lo scopriamo. Ma a me non mi interessa, meglio per lui, che si tronchi in due. Ciao, buona serata. Salutatemi a tutti. Oppure che ne escano gli occhi, che ricadono davanti ai piedi, ci metta il piede sopra e scivola e si tronchi il collo. Ah, PTT dal microfono, là. Almeno uno, là, almeno uno, lascialo. Però lui, sì, la verità, mi chiedeva gente malata a me. Se si giocava con l'altro PTT, faceva meglio. Col PTT del padre si gioca lui. Col suo, se gli funziona ancora. Tu mi hai tolto la parola di bocca, ma voglio vedere se ce l'ha ancora il PTT che dici tu. Vabbè, io non ho detto niente, per carità, non fate malini adesso, io PT e PT, e basta, lì. Rita, guarda, guarda che PTT è il microfono, mi è dato dal microfono. Ehi, già sveglia Rita, non ti preoccupare, dollaro, non ti preoccupare che già non sei stata lista. Poi ti dico che non ho detto niente di male, vero Luigi? Stiamo parlando di PTT, non stiamo parlando di niente, no? Io vedete che il maschio è femmina. Ecco, vedi, questa è più cattiva. Non è così. Ha ragione Rita, non sappiamo se è maschio o femmina questo che mette la portante, ha ragione, non lo sappiamo noi. Sì, ma in ogni caso è sempre dell'altra sponda. non lo so, guarda, non lo so come, non so neanche io cosa dire, guarda, quando una persona fa così, ma perché il motivo perché lo fa non lo so, quando potrebbe entrare benissimo e chiacchierare con noi, farci una modulata, una chiacchierata con noi, non lo so poi perché si comporta così, non lo so, non lo saprei neanche. Allora, molta gente lui entra, anche se più di una volta capita che non lo senti, o perché ha problemi di antenna, o perché magari l'apparecchio è quello che è, sono tante cose. Questo che esce forte, se lo può permettere. Quello di cui può permettere benissimo, visto che Boccanzi arrivava con un Santiago qua a 9.30, ha fatto dei passaggi di 9.30 che mi stava coprendo Giulio, poi ha abbassato, gli è stato abbassa, un po' alza, però ho visto che ha fatto dei passaggi di 9 più 30 Boccanzi, qua a ottava. Vabbè, già lo so, sì, già lo so. E sai cos'è? È uno che soffre a momenti di lucidità e altri momenti di mancantesimo e di macchio, è vero però, no, buffonendolo. E questa è una realtà. Anzi, devo dire che è anche opinione di moltissime persone che a me mi hanno detto. Dunque, c'è un abortante un po' credo malata. Positivo? No, a me mi dispiace solo una cosa, Giulio, sei una persona che noi conosciamo, quello mi scoccia ancora molto di più, se questa è una persona che noi ci moduliamo qualche volta, ci parliamo, e se è una persona che conosciamo, questo mi scoccia ancora di più, capito Giulio? Se è una persona che non conosciamo, va bene, che non è giusto che lo faccia, però se è una persona che noi conosciamo bene, allora non la so neanche giudicare, guarda. Giulio, questo è pratico, ma pratico mi. Noi, ricordati che noi ci conosciamo tutti quanti, e chi ha un segnale così è uno dei più conosciuti da noi, dunque, perché uno nuovo non entra con un segnale così, entra miseramente, tutto timido, tutto quanto così, l'MLM, sai, si affaccia, poi chiede, sparisce per qualche giorno, poi di nuovo si riavvicina, è così, la frequenza è così, l'esperienza l'ho fatta, 35 anni di frequenza, e lo so, questo ha le mani molto esperte, dunque non è un problema. Poi devo dire che è anche un segnale molto anziano, nel senso che è di un CB anziano, molto anziano, capito? Perciò non è un problema. Ma non se ne frega più di tanto, cosa se ne affutta a noi se la gente è malata, c'è il manicomio, c'è il muro che si può sbattere la testa al muro, c'è il ponte del Rosello, se non basta quello c'è il viadotto più in alto e si può buttare giù, che se ne affutti, lascialo fare, affutti di... Positivo, no? Perché sicuramente è una persona che si conosce, che voi conoscete bene, sicuramente al 100%. Ma non lo metti, è importante, no? Non lo metti, no? L'attrezzatura che facciamo non penso proprio. Io... Ma non lo metti, è importante, no? Non so cosa dire proprio. Ma non lo metti, è importante, no? Qui no, non ne ho la minima idea, o è una gelosia che lui non può entrare, o gli è mancata la parola e non parla più, e si diverte solo così. Capito? Ma non penso però, non penso. Io ce l'ho un amico che non parla più, che non parla perché ha avuto problemi, ma non ha più radio, non ha più niente, non si mette a giocare così, però non ha più nulla, da quando gli è mancata la voce ha dato via tutto, un carissimo amico che avrei conosciuto tu anche in passato, purtroppo ha avuto questo problema, questa operazione, non c'ha più la voce, apparati ne aveva di tutto e ha dato via tutto questo qua, capito, ha dato via tutto, non c'ha più niente, però questo non c'ha voce, non parla, ma parlava e si faceva sentire prima baracchino e tanto si faceva sentire, adesso purtroppo ha avuto questo problema, adesso già da qualche anno ha avuto questo problema alla gola e non modula più, non modula più perché non c'ha voce, gli è sparita la voce, capito? Ok, vabbè, purtroppo quando è stato sfortunato, pazienza, è andata così, però... Lascia scrivere da me, a futtidini, c'è gente malata, e ricordate sempre una cosa, e io lo dico così davanti a tutti, perché questa è realtà, in frequenza ci sono tanti di quei vigliacchi che tu non hai la minima idea, lui, tu sei nuovo della frequenza, e mi posso permettere di darti un consiglio, credimi, ci sono tanti di quei vigliacchi che tu non ne hai di idea, né tu e tante altre persone nuove di frequenza, come puoi essere tu, Rita e tanti altre e tante altre persone, stai tranquillo. E poi adesso anche Luca che è già qualche anno, alcuni anni anche perché c'è in passato, Luca è frequenta, Manuele te lo può confermare, e tu chiedi un po' agli anziani per renderti conto, vedrai che tutti ti diranno la stessa cosa. Sì, positivo, no, io in radio qua in stazione così sono da poco, però in camion io ce l'ho da diversi anni, io a volte vi ascoltavo ma non entravo mai, rientrando da Cagliari o qualche giorno ero qua in zona, io vi sentivo a Natalino, sentivo a Claudio, qualche volta con Claudio gli facevo qualche battuta, ma raramente, però non c'entravo mai, risentivo tutti i discorsi che faceva Natalino, entravi tu o quello o quell'altro, non mi interessava, non c'entravo mai, non chiedevo mai un break, un coso, no, a volte non c'era nessuno sul 5, a volte le giornate io ero qua aspettando a caricare, giravo e rimanevo in ascolto, io vi ascoltavo a voi, però non entravo mai, ma in camion sto parlando, a casa sai, non è che da tanto ve l'ho messo, però in camion c'ho da diversi anni, ho capito, Giulio, non è solo un giorno, in camion ce l'ho per... No, vi conoscevo per nome, sentiti così in radio, però voi a me non mi conoscevate perché io non entravo, hai capito? Non entravo a modulare con voi, capito? Ok, lui non mi meraviglia più niente, no, non mi può meravigliare perché è sempre stato così e sarà continuamente così, non ci sarà rimedio, possiamo essere in 5.000 come si era una volta, possiamo essere in 20 come siamo oggi e il problema è sempre quello, la vegliaccheria è sempre in evidenza, ogni momento, guarda, perché è gente che magari, questi sono racconti fatti a casa mia, no, perché a casa mia non è entrato mai nessuno e non sono così cretino da far entrare nessuno, no, nella maniera più assoluta, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però io mi ricordo negli anni passati gente che era invitata a casa, andavano, mangiavano, bevevano, si ubriacavano anche, poi andavano a casa, si attaccavano alla radio e le leggevano la paternale, le leggevano o questo così, quello colà, tuo figlio così, tuo moglie così, tuo fratello colà, capito? E sì, che ti puoi immaginare, la vigliaccheria è all'ordine del giorno in frequenza, ricordalo, si è amici in frequenza, però poi non bisogna legare assolutamente con nessuno, perché tanto gruppo si finisce per bisticciare, se frequenti persone a livello di amicizia, di greppa, eccetera. Bisogna essere amici sì, però sempre di frequenza, quando ci si incontra cordiali, educati, questo sì, ma frequentarsi no, ti posso garantire che l'errore più grande che si possa fare è lui. Lo so, no, io amici ne ho tanto, dico la verità, amici, io ci troviamo in camion, ci prendiamo il caffè, ci abbracciamo, quando ci affemmo, ci sentiamo, lo dico la verità, ci troviamo in strada, in coso, e mangiamo assieme, ci prendiamo il caffè assieme, diciamo, sono diversi amici, dai, diversi amici, e ripeto, no... Non sono così permaloso o cosa, però io dico che ci tengo parecchio all'amicizia, io ci tengo, ci tengo parecchio, se uno mi tradisce poco a poco, con me ha perso proprio, capito? Se mi fa un torto, mi fa una cosa, con me ha perso per sempre, perché io ci tengo parecchio all'amicizia, no? C'è un amico, io lo rispetto, però voglio anche io rispetto come lo do io, lo voglio, la stessa cosa identica precisa, Giulia. Ok, vabbè, dai, facciamo girare, adesso si sono calmate le acque, vediamo un po', facciamo girare, ma no, ancora ci sei. Sì, ci sono, giusto per liquidarvi, vi liquida tutto, peggio per voi. No, devo andare a accompagnare la bambina da delle amiche, insomma, mi hanno preso per autista oggi, già lo sai, oggi e ieri e domani, sempre. Va bene, buonasera a tutti, buonasera a Luigi, Rita, Dollaro e anche Coso, come si chiama lì? Quello che c'ha il tasto facile, Emi, Luca, c'hai quel tasto che sembra una campana. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, Mario, ciao. La campana sembra, perché la mia campana è questa, Senti. Ciao, vai Giulio. Ok, ciao Mano. Fai il nonno, fai. Che non è altro che fai nella tua intera giornata. Fai il nonno, cos'è questa cosa? Non ti lamentare. Cioè, lo so che non ti lamenti, 6 anni che fai queste cose. E giustamente se tu hai i nipoti li devi anche accompagnare, perché no? Comunque forse lunedì ti porto quell'affare che ti avevo detto, capito? Quell'affare da mettere su in alto. Vabbè, fatti vedere, perciò domani la preparo e te la posto. D'accordo. Avanti lui. E là sono arrivata No, ancora no. Oggi non lo so, oggi non c'ero. Sarà arrivato lunedì, non lo so. Ok, lunedì ci vediamo, buona serata a tutti, scusate ma vi devo lasciare, qua il nonno deve darsi da fare, se no lo picchiano, ciao, buona serata a tutti. Ciao Manora, ciao, anch'io mi tocca di fare il tassista, il nonno e mi tocca di farlo anche a me, anche parecchie volte diciamo, dai. Mi tocca di farlo anche a me il nonno, capito? Purtroppo i nipotini ce l'abbiamo, sono belli e bisogna fare il nonno, capito? Essere il nonno è anche bello. Già lo credo, è una soddisfazione, tutto sommato è una soddisfazione, beato chi arriva a farlo, non ci sono problemi, vai Rita per salutare a Manolo, vai. Sì, ciao Manolo, buon divertimento, ciao. E lì la portata è sparita, che peccato, stavo proprio divertendo invece, sparita. Luca, è sparita perché abbiamo colpito nel segno, non hai capito che abbiamo colpito nel segno? Guido, il discorso è quello sempre. Forse ha riflettuto un attimino e se ne è reso conto. Siete in fase, direttore, come in sala siete in fase, non mettete fuoco nel... Lasciatelo che siete stancato, e poi è giunto anche qui, si è andato in bagno, ma si vede già. Ehi, se no puta lui, ossia che ci viene da mangiare intanto il baracchino al massimo ci fa passare mezz'ora, un'ora, secondo il tempo che noi disponiamo, così, facendo due chiacchiere, ma per il resto, non se ne affutti niente. Noi viviamo dal nostro sacrificio, dal nostro lavoro, il baracchino, quando è possibile si parla, quando non è possibile non ce ne frega più niente. Vero Rita? Infatti, a questo punto. Ma Luca, non mi tocca nulla a me. Ti ho detto quasi nulla, ma sempre così povero all'usire, ma quando mai non c'è uno che ti può regalare qualcosa, non so, o qualche eredità bella, sontuosa, di più, a bucciacca di pieni, mi. Per carità, andà bene. Non commento. Comunque, è una cosa che non va bene quella che stiamo facendo, vabbè, comunque non c'è problema, sembra fatta apposta, vabbè, comunque già diciamo che ci siamo vicini, però prima di fare il nome bisogna essere sicuri. Poi una volta che sei sicuri allora si può fare il nome. Ecco un attimo per Luca. Non siamo così stupidi a fare il nome, però non siamo nemmeno cretini a non capire chi può essere o chi è Emilio. A tutti i dinni, lascia perdere. Che già, io ne sono sicuro, però il nome non ne faccio perché non va nemmeno bene. Sta lui a cercare di rimediare un pochino, con un pochino di buon senso, tutto lì. Ma non se ne affutti nulla, poi te lo rimediare, che se ne affutti. Riprendi lui. Aspetta, mi hanno chiamato, chi è la chiamata? Avanti. 7351, regola a questa parte. Poi carissimo Stefano, salutore, ben sentito, dai. Chiamami regola perché c'è un altro Stefano, quindi preferisco chiamarmi il condominio. Saluto tutta la ruota 7351, fammi da ponte se non mi hanno scoppiato. Da ottavo, Giulio e Rita, dai, vai Rita. Non ho capito il nome, buonasera comunque da questa parte. Si chiama come tuo marito, dai, Regolo. Ehi, ciao Regolo. Ciao Rita, super salutoni e tanti 88. Ho dato una cosa, Stefano. Che tu e il marito di Rita si chiama Stefano. Lei che si chiama Rita si chiama molta moglie, che coincidenza. Il capo di Roger, non lo so, può succedere al baracco. Ho sentito un po' tutte le vostre discussioni, ero in ascolto. E lui sta segnando importante. Non ho copiato bene. Ho detto, hai notato il segnale della portante. Capa di Roger, c'era una portante molto potente, non so chi sia, ma io modulo da Viale Italia Alta, come sai, ma non so chi fosse. Vabbè, interessante, lì tu ci confermi che era alta. Altina. Ok, avanti Giulia, a te il microfono. Ok, ciao Stefano, Regolo. Lo so, una portante alta un po' dappertutto, dunque, visto il cerchio si restringe sempre di più, tutto lì, comunque, non fa niente, affutti i musini, vai lui. Positivo, buonasera Regolo, Stefano, ma tu mi pare che c'hai una uno, cos'è che c'hai di oscura, che ho visto un giorno con l'antenna, può essere, c'è una macchina così, tipo quella, Regolo. Capa di Roger, c'ho una punto verde con l'antenna lunghissima, chilometrica, tipo un fungo. Ehi, positivo, un giorno ero in cambio, ti ho visto, ero in compagnia con la tua signora e mi sei passato davanti, ho detto, ma questa macchina, ho detto, mi sembra che l'ho vista a Daniele questa macchina qua, sembrava che l'ha vista un giorno a Daniele quella macchina. Sì, sì, hai ragione, purtroppo io modulo da tanto tempo, ogni tanto entro e ogni tanto esco, e quindi l'antenna mica la posso cambiare ogni qualvolta. Fate, fate, no, ho visto che c'è cos'è, ma 2001, cosa c'è sopra la capota? Ma fa un 100 ciò. PL1000, così è PL1000. Cappa di Roger. Positivo, positivo, no, no, sì. Ho visto un giorno, mi sei passato davanti, dai, non mi ricordo dove, però mi sei passato davanti in vettura e pare proprio agli puntini, solo a quelle vie degli punti mi pare, no? O al semaforo, cioè non mi ricordo. E ho conosciuto la macchina, per esempio questa macchina l'ho vista a Daniele, detto, sicuramente deve essere il padre, è regola. Capa, io sono a vita che modo, mi sembra degli anni 80, ho perso tutto l'orientamento. Comunque discussioni così io nella mia vita non le ho mai sentite, quelle che avevate poco fa voi. Ma discussioni per questa portante? Capa, un po' per tutto, dai, si raccontavano le cose, oggi sono stata a mangiare, qualcuno ha detto che è stata a pranzo con Tizio Caio Sempronio e quello fa piacere che ha preso i caffè, non so chi fosse perché non seguivo molto bene. Ah, forse era Giulio quando mi stava facendo... beh, Giulio non è... non è un ragazzino, Giulio c'è anni e anni in radio e mi stava dicendo delle cose che poi, anche se non me le metteva in coso, lo so perché le capisco lo stesso queste cose, io non è che non le capisco, no, è successo, invece in passato è successo qualche cosa, che ha fatto qualche cosa e poi è successo un po' di casotto, ma... solo quello, confermi quello Giulio che stavi dicendo tu prima. Io ho detto che in tutti questi anni di frequenza che io ho fatto tanta di quella esperienza e ho avuto modo di sentire e frequentare anche delle persone, non frequentare come amici, ma frequentare così come amici della frequenza e sapere che regolo, quanti, rispondimi prima, quanti anni ci sei di frequenza tu? Sì, è una voce che io credo di ricordare, però adesso questo nome attivo regolo non è che mi viene tanto così alla mente. E Capellosi, diciamo che sono 20 anni, 25 anni, ho iniziato a piccolino con gli occhi tocchi, figurati un pochettino, cambiavo i quarti. Aspetta, sei vecchio. Ok, ciao già. Sì, ascolta, allora, intanto io ci sono quasi il doppio degli anni di che ci sei tu, in frequenza, allora, però adesso c'è anche Gianni che è più o meno da me, degli stessi anni che ci sei. E te lo potrà confermare anche lui. Io stavo dicendo che le persone che ci sono in frequenza non sono affidabili per poter diventare amici di Greffa. Non so se mi sono spiegato bene poco fa, ma Luigi credo che abbia capito perfettamente. Amici di frequenza sì, ma amici di Greffa non è possibile, perché se tu li frequenti e vai insieme a loro e li inviti a casa e tutte queste belle cose, poi ti tradiscono e ti raccontano tutto quello che hai fatto, che fanno a casa tua, eccetera, eccetera. Non so se mi sono spiegato, adesso te lo voglio dire solamente con queste due parole, se no il discorso diventa molto lungo e siamo in tanti adesso in frequenza. Casomai certe cose te le può confermare anche Gianni, che lo facciamo entrare subito. Avanti Gianni. Ok, forse mi ha preso per Gianni a me. Cosa stavo dicendo? Io sono Gianni. Aspetta un attimino, Vittorio, cerca di regolare la radio. So che con la radio AM non va bene. Vediamo un po' se puoi regolare, perché c'è tutto bom bom bom bom. Aspetta così. Meglio va. Passaggio, parla. 2-3, perché che mi ritrasmissione, da meglio lo stesso. Poco visto. È molto chiuso come radio, Così. se non c'è, è inutile che ci giri. È FM. Ah, è fredda? FM. Ah, FM. Ma io, per me non c'è problema andare in FM. Non so se gli altri sono d'accordo. Per me nemmeno, se vogliamo passare lì, vediamo un po'. Ciao Vittu, t'avevo scambiato per Gianni. Avanti lui. È positivo, cosa vogliamo passare? In FM, passiamo in FM, non lo so, specie Emilio la radio di Vittorio, buonasera Vittorio. Non so, specie Emilio in FM, passiamo in FM. C'è una manopola, chiedi un po' a tuo figlio lì. FM, c'è una manopola MFM, ma c'è scritto USB e LSB. Caro, mio figlio non c'è in questo momento, io vi saluto a tutti quanti nella ruota, sono entrato così per salutare i vecchi amici, di cui ricordo i nomignoli, per cui super salutoni, ci sentiamo alle prossimine, salutoni a tutti, senza fare i nomi, tutti compresi. Ok, ciao, ciao, buona serata, alla prossima, dai. Tutto alle prossimine, vai Giulio per i saluti. Ok, vabbè, Stefano, la prossima volta te lo spiego meglio. Ciao, ci sentiamo. Saluto, aspetta, Rita, ce l'hai l'FM? Sì, sì. Allora, passiamo l'FM che Vittorio ha problemi di radio. Andiamo tutti in FM, dai. Ok. Allora, devo passare qualcosa io qua. Ora, vai Vittorio. L'FM probabilmente va un tantino meglio, credo. Ce l'ho visto che tu. Ma lo so, è inutile, se usi una bicicletta, la corsa, per andare in mezzo alla campagna non va bene. Una bicicletta, la ciclocross ancora, ma è così. Vediamo un po', Rita. Ma come senti? Rita, Vittorio. Sì, ciao Vittorio. Già mi sente, ciao. Poi chi era l'altro? Poi c'è Giulio e c'è Luigi Vulcano. Vai Luigi. Buonasera Vitto. Vediamo poi nel FM, ti ascolto meglio comunque di prima. Qua esce un po' meglio, ti ascolto benissimo. Io come esco va bene per me, così? Ho fatto l'amplificazione Giulio, perché l'ho dovuto abbassare pure io, vai! Che hai detto? Avete parlato in due, abbassare devo? K! Andare duro sì, si abbassa un po' è meglio, comunque in FM non ho migliorato solo io, avete migliorato molto anche voi. Ecco, adesso io ho abbassato, così dovrebbe andare meglio, confermate? E la voglia, alla grande. Ok. Ok, ciao Vittu. Ascolta, confermaglielo tu a Luigi, poco fa stavamo parlando che l'amicizia della frequenza non è quell'amicizia che si deve costruire a livello di greffa, eccetera, eccetera, cioè un'amicizia abituale di tutti i giorni o di quando si era ragazzi che si andava in compagnia, eccetera, eccetera. Incontrarsi sì di tanto in tanto, però possibilmente tenere le distanze, naturalmente quando ci si incontra essere cordiali, essere educati e rispettosi, questo senz'altro, confermi? Beh sì, ho seguito in parte il discorso, ma è un discorso, se uno trova le persone corrette da potersi fidare lo fa, ma se poi sono le solite persone da baracchino che, come hai detto tu, entrano, gli dai confidenza, vedono, sentono, fanno, e come se non vanno a casa tua cominciano a spallare, è una cosa abbastanza antipatica, quindi è come un po' con tutti, che sia gente baracchino o non baracchino, quando uno fa così non è un amico, ma sono persone poco affidabili, E infatti stavo a buon par, cioè perlomeno io ho detto poc'anzi, l'ho ripetuto un paio di volte, che siccome c'è tanta vigliaccheria in frequenza, nel corso di tanti anni di frequenza che io ho avuto modo di constatarlo questo, e dunque non è il caso che uno riesca a costruire una profonda amicizia, perché ripeto, per me gli amici non sono quelli della frequenza. Io li rispetto, li considero amici in frequenza, però fuori dalla frequenza no. Amici conoscenti, questo sì, li rispetto, li saluto volentieri, possiamo prendere un caffè insieme, anche due, non ci sono problemi. Questo no, però, come stavo dicendo prima, fagli venire qui, dico qui per dire in una casa, fagli entrare in una casa. Quello per me è un errore grande, perché? Perché ci sono stati dei tantissimi precedenti negli anni passati che hanno dimostrato che quello che sto dicendo è verità, ed è giusto secondo me fare come sto dicendo io, rispettare tutti, però non diventare amici troppo profondi. Oh, riprendo io, Giulio. Dimmi Luca. Guarda, sì, da me sei fuori frequenza, perché mi sono spostato col fine corsa verso destra e sei spostato, Aspetta, e gli altri cosa mi dicono? Anzi, che sei tu che sei spostato. Vediate cosa mi dicono. Vittorio, Perfetto, non è perfetto. Io ti sento con una radio chiarissima, proprio come se stai ascoltando Radio del Golfo, chiara, pulita. Per me non c'è proprio nessun genere di problema, eh? Allora, io Vittorio te ti ascolto benissimo. A Rita, che adesso la faccio venire avanti, comunque ha fatto un passaggio, che ha salutato, la sento benissimo. A Luigi, idem. Vai Rita. Ahia, no, io a Giulio l'ascolto benissimo. Luca, tu quando parli fai, mi sembra che grazia un po' la voce. Però agli altri li ascolto bene. Sì, vabbè, questo è il problema di microfono, dai. Posso anche abbassare, ecco. Vedi un po' che ho abbassato? Adesso va bene. Comunque, giù che lo sento male. Se sposta il fine corsa verso destra, allora lo sento bene. Sì, salvato. Sì. Ah, boh, non lo so, salvato. Tu sei in FM? Non ce l'ho su questo! Ha detto che non ce l'ha, su questo barattino non ce l'ha l'FM, ha detto. Sabato, io ti sento più, non già riesco a capirti. Sabato, se non hai l'FM è chiaro che magari una stazione la puoi sentire, ma gli altri magari non li senti. Luca, sintonizzati su di me, perché se gli altri mi sentono bene vuol dire che io sono in esonda, no? Tu sintonizzati su di me e poi sentirai gli altri se senti bene o meno. Boh, però passaggio per tu. Luigi. No, io a Giulio lo ascolto. Prima c'è stato un attimino quando tu l'hai confermato tu che l'ho sentito anch'io così. Un po' gracchiante che era, sembrava che si era spostato non so dove, adesso lo sento nuovamente bene. Comunque Giulio, la spiegazione la stavamo dando a Regolo, che adesso a Stefano, ho capito. Io ho capito perfettamente Giulio il discorso. La stavamo spiegando a lui, che è rimasto un po' così, ha detto di questo discorso che stavamo facendo noi con te, e tu glielo stavi spiegando a lui, capito? Io ho capito al 100% che abbiamo parlato anche in verticale, se ti ricordi Giulio. Allora, aspetta un attimo lui, scusa. Avanti, dimmi. Allora, io ripeto, a Luigi, a Rita e a Vittorio li ascolto benissimo, a te ti sento tutto gracchiante. Se mi sposto col clarifer, col fine corsa, anzi, correggo, col fine corsa, verso destra un po', non molto, ti sento benissimo. Mentre che gli altri li ascolto male. Cioè, stava parlando Luigi, lo sentivo come io sento a te, adesso che l'apparecchio è centratissimo. Aspetta, vediamo un po' se riesco a sistemare io qua. Allora, ecco, vediamo adesso come mi senti. Vediamo se gli altri mi sentono bene, se mi senti bene anche tu, vai. Peggio. Allora aspetta che torno indietro. Ecco, adesso com'è adesso? 1, 2, 3, prova. Ah, ti ascolto bene. Però sei uscito leggermente fuori tu. Comunque vabbè, non fa niente. Voi come mi sentite? Rita ad esempio. Bene, Giulio, benissimo. No. Allora, ripeto, scusatemi, no? Io gli altri li ascolto bene, Giulio, a Rita, a Luigi e a Vittorio li ascolto bene. Perché a te ti ascolto male? Punto di domanda. Perché c'è un leggero disallineamento di 1600 Hz tra la trasmissione e la ricezione. Adesso l'ho diminuita a 1200 circa, quindi deve rientrare di 1 kHz ancora. Adesso sono perfettamente in onda, qui il frequenzimetro mi dà 27.075, non so se così va bene, vai. Adesso sì, c'entratissimo, ti ascolto benissimo. Già sei rientrato, visto? Amore, bigode. Ma il problema non è, perché se sentivo male a te, Giulio, dovevo sentire male a Vittorio, dovevo sentire male a Luigi, dovevo sentire male a Rita, capito? Adesso ti ascolto benissimo, senza spostare niente. Ma il fatto che ti sento male io a te, ti sento, ti capisco, però non è perfetto. E io sono in zona, perché qui il frequentimetro mi sta dando 27.075. Perfetto, dunque, no, non è un problema. Comunque dai, non fa niente, dai, già va bene lo stesso. Avanti lui. È positivo, no? Io ti ascolto bene, Giulio. Sì, vi ascolto bene a tutti. Adesso in questo momento c'è stato poc'anzi un attimo quando te l'ha detto Luca che anch'io ti ho sentito un po' gracchiante, un po' sembrati che eri spostato un po', però poi era tutto normale, però adesso va bene, andava bene prima e va bene anche adesso, e no, ti ascolto sempre bene. No, ti stavo dicendo il discorso di prima è perché è entrato Regolo che ci ha detto ma il discorso che stavate facendo è rimasto un po' così, il discorso che stavi facendo tu a me prima. No, io l'ho capito bene, Giulio, l'ho capito bene il discorso, che poi ne avevamo parlato anche in verticale un giorno, non so se ti ricordi, e questo discorso io già avevo afferrato bene, lo stavi più che altro spiegando a Stefano, a Regolo, là, che poi ha chiuso e via. Capito il discorso, quello ho capito bene. Sì, infatti, no, ma siccome c'è Vittorio che è vecchissimo della frequenza, lo stesso anche lui ti può confermare che certe cose sono andate almeno negli anni passati e ancora oggi continuano ad andare come appunto ho spiegato. Vabbè, comunque lasciamo perdere questo discorso, intanto a me non me ne frega più di tanto, io faccio la mia vita, avvicino chi voglio avvicinare, come facciamo tutti dal resto, e poi tutto quello che succede in frequenza, una volta che spengo, a me non mi riguarda più niente, non me la fotti di nuda, tutto va bene per me. Vai, vi tu. È giusto così, che ognuno abbia i suoi punti di vista e tutti gli altri ne abbiano rispetto, quindi già va bene così. Beh, certo che c'è un certo numero di anni, ne ha visto e sentito di tutti i colori, quindi, ma io, nel mio parere, non è solo all'apparecchio, possono essere vicino di casa, della porta di fronte, che ce l'hai sempre in casa, mattina, pranzo, colazione, cena, e poi finisce che prima o poi la roba satura e si litiga, perché gli eccessi, quando sono gli eccessi, si rompono sempre determinati equilibri e poi si creano degli attriti, e succede nel 99% dei casi così. In effetti è così. Comunque, non è che io volevo fare una polemica o meno, ho voluto solamente dire come la penso io, credo naturalmente, come tu hai asserito, di avere il diritto di pensarla come voglio io, anche perché sto pensando nel giusto, questo non per essere presuntuoso, ma è così, e chi è anziano come me lo può dire apertamente, che in effetti è così. Comunque, va bene lo stesso, dai, non ce ne frega niente. Se non mi sarebbe interessata la frequenza non l'avrei più acceso, siccome anche se è così mi interessa lo stesso, perché la passione per la radio è tanta, di conseguenza non è quello che mi dà fastidio più di tanto. Quando posso ascoltare, quando mi vado ad ascoltare ascolto, quando non mi vado ad ascoltare spengo e basta, non se ne parla più, tutto lì, e non ho perso niente e non ho guadagnato niente. Vai Rita. Ai, ai, ai. A volte può capitare che c'è gente maleducata, a volte c'è gente onesta, cioè non è detto, a volte dipende dalle persone, da come si comportano anche, da come si presentano. Sì, vero, vero, vero. Vabbè, la vita, su questo fatto qua di maleducati ce ne sono tanti, compreso io, attenzione, non è che sia un santo, come ho detto a Giulio ieri, anche di persona, l'ho sempre detto, molte volte capita di essere anche maleducato, perché quando uno, come ha detto Giulio prima, che lui ha la passione della radio, come ce l'ho io, come ce l'hanno in tanti, che più di uno non lo ammette, ma vabbè, non fa niente. Però i maleducati ce ne sono stati e ce ne saranno sempre, sempre. Sì, quello sì, è logico, ce ne saranno. Ma allora, buonanotte, si chiude tutto quanto e allora non si parla più con nessuno. Cioè, se lui vuole continuare, parla educatamente e basta. Perché per esempio, adesso noi siamo tutti qua. Cosa adesso? Faccio un esempio, Giulio. I più grandi, per dire Giulio, Vittorio, Luigi, faccio un esempio, poi qualcun altro, ci fanno una ruota per i cacchi loro, e ci facciamo una ruota io, tu, che siamo i più giovani, Daniele, poi chi c'è, Torellino, per dire, anche se lui lavora, e poi da lì è un casino, perché la ruota si separa e c'è un casino, come è già successo, perché l'abbiamo già fatto e non va bene. Perché lì erano in 4, in 5, noi eravamo per dire in 6, o magari con noi c'era una persona grande, per dire 10 anni più grande di noi, è un casino, guarda, il baracchino è stato sempre un casino, sempre, per quanto ci sono io, ne ho sentito di cotte e di crude, vabbè, comunque, facciano quello che vogliono, a me non me ne frega niente, però mi dispiace quando una persona, perché cioè si comporta male, non va bene, non va bene perché a lui non lo stanno cercando, vabbè comunque, prima o poi si trova, io la mano sul fuoco non ce la metto, però sono sicuro di andare, butto la moneta lì, la moneta, dico quello lì, è lì, è lì, la butto perché sono sicuro che è lì, però vabbè, lasciamo perdere, quando sarà lo facciamo. Fregatene, e poi non è il caso, io anche se ho 5 anni, meno di te, Luca, non te li faccio pesare, capito? Cosa ruote, non è il caso che la gente anziana come te se ne vada in un altro canale, capito? Oh, che basta. Vabbè, Vittu, c'ho 83 anni, non portati bene bene bene, ma c'è gente che ne ha 40, 50, portati malissimo. E vabbè, peggio per loro. Io ne ho 28, al limite ne dimostro una trentina perché sono scippato dal lavoro. Nel senso che si comportano da bambini, capito? Ne ha 50, chi ne ha 55, e si comporta da bambino. Perché queste cose qua le può fare solo un bambino. E boh, non una persona di quell'età. E vabbè, comunque. Facciano quello che vogliono. A me non me ne frega niente. Vai Luigi, Luigi, dici la tua. No, io sono un ragazzino, tu lo sai Luca che io sono un ragazzino, mi conosci bene. E posso dire una cosa io di Luca, e Luca sarà un rompispalle in radio e via dicendo. Però io ho avuto molte occasioni con Luca essere assieme. Viene spesso qua da me Luca, capita che viene. E dico una cosa, ce ne sono pochi come Luca, perché Luca è un ragazzo, a parte che si comporta di una serietà e educazione che non vi è bene a dire Luca, non è che io, perché adesso sia in radio lo stia vantando, però come lui ce ne sono pochi, ragazzi educati, perché ha avuto modo di venire tante volte da me, sa che con me ha una confidenza Luca quando viene. Però è una persona ma di rispetto educata, ma educata veramente Luca, tante volte che è venuto da me, che siamo trovati assieme. Educato, please. Da me. E ce ne sono pochi, educati come Luca, Come io lo dico in faccia perché ce ne sono pochissimi. Infatti è un ragazzo che io adoro molto, Luca proprio, è come un figlio per me Luca. come un figlio, perché mi permetto a volte di sgridarlo, ma di gridarlo così scherzosamente, però è una persona molto, in radio sembra che sia un po' prepotente, invece no, è un ragazzo educatissimo, non ti tocca nulla se ti chiede il permesso, quando dico mi qua sei a disposizione, bevete, prende, e lui rimane lì, ma posso, non posso, se ti ho detto a disposizione vuol dire che puoi prendere, ma l'educazione, capito, non è di quelli che fanno, toccano, prendono, no, chiede il permesso prima di fare una cosa, anche se tu gli autorizzi di fare quello di prendere, di mangiare, prendere quello che c'è sul tavolo, lui no, lui chiede il permesso, è una persona molto, molto educata, e questo io gliele faccio molto onore a Luca, che in radio non sembra, però Luca, non ti gasare molto Luca, capito, perché la prossima volta che passi non ti offro nulla, comunque è una persona in gamba, Luca veramente in gamba. Io non vorrei mettere fuoco, ma mi pare tutte queste ore sta tentando di scroccarti da bene. No, aspetta, a me chi mi tratta bene, di tu, con me sarà sempre un amico, perché ho notato che lui, la verità, ho sempre detto che è una persona, anche l'ha detto altre persone che sono andate lì, che Luigi è veramente una persona in gamba, perché è una persona in gamba, questo, su questo non ci piove, poi è anche, come si dice, molto ospitale, prima di tutto, e non c'è stata una volta, guarda, tutte le volte sono andato io, non c'è stata una volta che non avrei fatto cosa da bene, come mi sono capitato da altre parti che non è stato così, ogni volta che vai lì, cosa vuoi da bene? Ma proprio, ciao lui a me, cosa vuoi da bene? Subito mi, subito, no, la verità, ma non è per quello, poi è una persona, una verità, come lui sta dicendo che io a baracchino lo faccio molte volte per così, per scherzare, ma no, non sono così, come mi ha riferito stasera un mio fratello, che una persona gli ha riferito che io sono prepotente, ma non lo faccio per cattiveria, molte volte capita che entra uno, un camionista, sa che questo canale è occupato da gente che parla da casa, si mette in mezzo, lo fa apposta, e allora io per gentilezza dico se si può spostare che c'è una ruota, non da fa. E me l'ho detto che sono prepotente, ormai non lo faccio per cattiveria, prima lo chiedo per cortesia che se si può spostare, poi se non si sposta allora lì mi salgono i 20 minuti, no i 5, no i 20, allora inizio a dire quello che devo dire, tutto qua, comunque io mi ritengo una persona brava, poi c'è la gente a me poi dietro la spalla, mi fa pizzi, non me ne frega, guarda, l'ho sempre detto, non me ne frega niente, l'interessante non lo senta io, passi grosso e grande tubù, già parlo a te, sì. Quindi ho capito, non avevo seguito l'andata, il discorso è cosa, qualcuno ha detto sì, Monello, cattivo o maleducato, così? No, adesso Luigi ha detto quello che ha detto, io lo ringrazio per aver detto quella cosa lì, ma anche lui è una brava persona, e mi può essere anche padre, diciamo padre, perché lui ha la sua età, io la mia, diciamo che può essere anche padre, però è una persona squisitissima, è educata soprattutto quando entra a baracchino, ma è accettabile, sempre, quando è via Luigi, pronto, vai lui, sempre. Però ci sono certi camionisti che si comportano ben male e lui ci sa benissimo, qualcuno lui l'ha sgamato, vabbè comunque, il comportamento mio è quando le persone si comportano bene, come possono scherzare quanto vogliono, ma non me ne frega niente, lo accetto perché no, è un gioco questo, è un giocattolo diciamo, dai, si parla di più o meno, comunque confermo che lui è una persona veramente in gamba, per come l'ho conosciuto io. Poi per gli altri, ma non me ne frega niente. Io qua voglio qualche cosa, qua. Io lo stavo facendo a lui i complimenti perché, ripeto, mi è capitato Luca di sentirlo in radio, mi ha fatto incavolare qualche volta, lo dico, però in verticale a volte sta pescando, scendo e cosa, ci troviamo. ho avuto occasione e ti dico che confermo quello che ho detto prima. A volte in radio sembra un'altra persona, però in verticale, anche in compagnia, anche se beve un bicchiere in più, è sempre un ragazzo a posto, diciamo, educato, quello l'ha per fatto, perché forse si è reso conto che io anch'io sono una persona molto molto precisa nelle cose, perché io invito molta gente qua, vengono amici di miei figli qua in questo magazzino che ho io, c'è un specie di magazzino, c'è venuto anche Giulio un giorno, abbiamo bevuto una cosa assieme, l'ho invitato a bere, che mi stava cercando, è venuto qua a accompagnare la moglie dalla nipote a fare i capelli e lui stava cercando la casa mia e ci siamo trovati un giorno. Per me, dai, non vengono solo quelli della radio, qua ne vengono tanti altri amici, diciamo amici come diceva Giulio, ne ho tanti altri, non è gente che non parla al baracchino, e ne vengono, qualche volta qualcuno si è comportato male, e ripeto, qualcuno l'ho dovuto prendere per dietro il colletto e buttarlo fuori, direttamente da dentro e buttarlo fuori, perché io sono una persona molto molto educata, molto, se tu non mi manchi rispetto qua dentro, questo dentro casa mia mi manchi di rispetto, io ti butto fuori. È successo tantissime volte, ne ho buttato fuori di gente da qua dentro, un bel puro che si è comportata male, ne ho buttato, fino a che si comporta bene qua tutti rimangono tranquilli. Anch'io ho i miei cusi, quando uno si comporta un po' male, mi è capitato non da molto, avevamo amici di miei figli e cosa, hanno fatto una spuntinata e mi ha fatto questo in moto davanti lì, senza invitato né niente, un conoscente che si conosce così di vista qua, sbronza in moto, vede che c'è la festa, cosa, blum, si lancia, per poco ne entra dentro, c'è la serranda aperta, per poco ne entra dentro e prende il tavolo in pieno, eravamo tutti noi. E io lì mi ha un po' scocciato, l'ho detto vabbè, visto che l'ha bevuto, ho detto guarda, sì, qua non dare fastidio a nessuno, gli ho offerto da bere, tu stai seduto, poi ho iniziato una cosa e l'altra a fare un po' lo stravagante, fino a un certo punto ho dovuto prendere per il culletto e buttarlo fuori in carriera, la cavati la fura. Però ripeto, non è cosa, fino a che le persone si comportano bene, il discorso di Giulio con me, non hanno niente da perdere, se si comportano male io sono fatto così e ha perso subito l'amicizia, fura dai, no, che non vi basta più, fino a che le persone sono educate e si comportano bene, per me l'amicizia c'è sempre, capito Vito? È normale che sia così, insomma, un minimo di rispetto, di discrezione, ma soprattutto rispetto. Se vengono a mancare questi equilibri è normale che non ha senso portare avanti né compagnie né amicizie quando sono cose a senso unico. Questo qua sta facendo male, sto sattro, non si capisce niente. No, forse è aspetto. Adesso bene, aspetti, forse c'era ricevitore arco, adesso bene, tutto sotto, sì, abbassa, forse c'è troppa potenza, abbassa, c'è potenza, c'è il microfono, fa vedere cosa ho portato qui, così? No, sta facendo malissimo Vittù, perlomeno io ti ascolto male, vediamo un po' gli altri. Eh sì, stavo scendendo male, Vittu. Sai cosa devi fare? Prendi un baracchino come ce l'ho io, un baracchino da 3 soldi, che a volte vanno meglio di quelle radio professionali, Vittu. Io sono col baracchino io, solo che mentre chiacchieravo stavo col pennellino, stavo pulendo i tastini ed ero andato fuori di 3 kHz, quindi c'aveva ragione Luca. Vabbè, comunque sia... È così lui, dai, è così, la pura verità, quando uno si comporta male, l'unica cosa è prenderlo a calci nel sedere, mandarlo via. Anzi, prima lo prendi con le buone, poi se non lo capisce con le buone, là, che si usano le cattive maniere, e via, lo mandi via e No, io quando vado in un posto mi comporto bene, come abbiamo fatto ultimamente, quello che abbiamo fatto, giù lui, pochi amici, ti hai visto anche tu, ci siamo comportati bene, io sono stato a verità molto bene, abbiamo suonato, cantato, mangiato, bevuto, però a me che mi risulti casino ce n'è stato, confermi? No, ma lo stavo già dicendo poc'anzi, ho visto tante occasioni, tu sei stato sempre una persona riguardosa e educata, e, non, per carità, non, infatti questo io sto dicendo, tu tante volte sei venuto con me, anzi, no, cioè, anzi ti dico, quando vieni ti dico prendi cosa vuoi da bere, apri il frigo, mi dico di servirti da solo, guarda se sto dicendo bugia, dico prendi quello, guarda cosa c'è in frigo, prendi quello che vuoi. È giusto quello che sto dicendo, Luca? Sì, sì, ma molte volte no, a me invece non sono il tipo che prende e fa, no, non mi sono mai permesso, ormai mi permetterò, mi fa una cosa del genere, andare a casa degli altri, aprire e fa, no, assolutamente lui, proprio non lo farò mai. Ah, ma non che dico lui, ma è per cortesia mi dà un bicchiere d'acqua che sto muovendo di sette, quello, tante volte mi ha detto, apri il frigo, prendi quello che vuoi. Questo sì, no, ma molte volte capita che non fa, dai, perché non devo guardare dentro il tuo frigo cosa c'è e cosa non c'è? Ma no, ma non hai capito Luca, io cosa dico, quello che c'è nel frigo beviamo, quello, se non ce n'è dico portatene, quando vi siete portate una cassa di birra la mettiamo in frigo, io lo dico sempre, beviamo quello che c'è io offro, io sono di buon cuore, quello che c'è apro il frigo e vi offro, e mi guarda c'è questo e quest'altro, cosa preferite? Sì, sì, anzi per quello non c'è problema. Su questo, ma no, vabbè, a parte quelle sono, diciamo, interessanti quando una persona si comporta bene, che rispetta anche il più piccolo, e il più piccolo rispetti il più grande. Adesso prendiamo un esempio, Giulio, siamo CB, lui è un CB, io sono CB, tutti gli altri sono CB. Mi ha detto di darle del tu, però io non ci riesco perché è una persona grande. Io non sono amico suo, dammi del tu. E così ha fatto Manolo. Dammi del tu e trattami bene. No. Con te è diverso lui, magari, perché, insomma, dai, sei... Non voglio offendere a Giulio, attenzione. Sei più giovane. E poi non... Cioè, non... Mi è venuto così spontaneo di darti del tu. Però molte volte, tra me e me, mi chiedo... Ma forse mi conviene chiederle se posso darle del tu o magari, insomma, del lei. Sono tante volte me lo sono chiesto. No, tu non l'hai detto. No, tu dammi del tu e... Tu adesso ti dico una cosa, voi non ci crederete, no? I colleghi miei, i miei colleghi di lavoro, che siamo tanti anni che lavoriamo, non ce ne tanti, mi guarda, iniziando da Putti, che da Giovanni Putti, che adesso non c'è più con noi, tanti, non si sono mai permessi di fare una battuta, una parolaccia, di una cosa sgarbata a me. Mai, perché io non mi sono mai permesso, e loro cosa ci stavano, tra loro, dai, se facciamo quelle battute, quelle parolacce, quelle cose, se le dicevano tra loro, con me non me lo facevano mai, non mi dicevano, però non mi permettevo neanche io di farla a loro, però dice, se loro, se lui non si permette a fare, un giorno si dice, parlando così, dice, no, lui dice, non ce ne fa a noi, dice, no, sia che si offenda, dice, no. E non mi hanno mai fatto una battuta, diciamo, battute sì, ma scherzose, però non con parolacce, cose così grosse come facevano tra di loro. Non si sono mai permessi. Ma io non mi sono mai permesso a dirlo a loro, di dire una cosa. E loro non si sono mai permessi, colleghi di lavoro, di dirlo a me, di dirmi una frase, una cosa. Mai permessi. Eppure, perché io ero educato nei loro confronti, e loro hanno... Non si sono mai permessi, non me l'hanno mai chiesto se potevano o non potevano, non si sono mai permessi di farmi una battuta parolacce, cose come si fa a volte tra amici. Sì, sì, ma è meglio lui che non... E questa gente non gli dà confidenza, che poi male, gliene dà un dito se ne prende un braccio. E non fa. Lo so, già ho capito cosa vuoi dire, l'ho capito. Quello succede in tutte le parti, tutti i posti di lavoro. Che ci fanno le battute, tante battute, dai, ma molte volte offendono anche, secondo chi trovano, non sta lì a pensarci due volte. O magari glielo dici, cerca di dare una regolata con le parole, poi se non capisci, allora bisogna ragionare le forze, perché a me è capitato più di una volta, però l'ho sempre evitato, io evito perché non ne frega niente, sono un tipo che non... Molte volte faccio anche l'indiano, ma se mi trova nel momento in cui sono veramente con le palle girate, allora non so cosa ne esce. Io sono stato sempre calmo, io ho sempre evitato, sempre lui, sempre. Perché non me ne frega niente. Molte volte mai si bisticcia per cavolate. Però l'interessante è che questa cosa non si ripeta un'altra volta, perché alla fine uno vabbè, dice, vabbè, sta scherzando, vabbè, una volta va bene, fai l'indiano e via. Ma se capita un'altra volta, no, allora no. Allora questa cosa sembra che lì sia il soggetto. Allora lì come bisogna dire due paroline e via, perché così lui. Comunque Giulio, mi confermi tu che mi hai detto di darti del tu, confermi? Sì, infatti questo lo volevo sottolineare, e per questo mi dai del tu, è giusto che sia così, ti avevo detto anche di darmi anche in verticale, tu invece continui a darmi del lì, vabbè, quello vedrai tu, io non è che prego a nessuno, non vado nemmeno in chiesa a pregare, figurati se prego le persone, io l'unica cosa che faccio con le persone è rispettarle, perché anch'io lo pretendo rispetto, chiaramente tu per me sei un ragazzo che mi rispetti, ma non ho niente da dirti. Tante volte, anche ieri, mi sembra che ti ho detto una cosa riguardo ad esempio della portante, uno che si è confidato con me, tu mi hai mai sentito dire, è il tizio che mi ha detto che ha fatto così, e io cosa ho detto, non ti dico il nome, tu giustamente mi hai detto, no, non voglio nemmeno sapere, giusto, però io non faccio il vigliacco come fa tanta gente, che poi magari prima sparla e poi riferisce, o perlomeno, capito, ecco il discorso che volevo fare io è questo, per me la vigliaccheria non deve esistere, non deve assolutamente. Assolutamente esiste, tu lo sai benissimo, da me vengono in tanti, quasi tutti CB e quasi tutti li conosco, e tutti mi confidano tante cose, di uno o dell'altro, ma a me quello che mi entra in un orecchio mi esce subito dall'altro, perlomeno se mi rimane in testa non mi sono mai permesso di andare a dire mica il tizio ha detto così e così di te. No, no, non è giusto, perché quello lì allora per me vorrebbe dire vigliaccheria, capito? Ecco, tutto lì, riprendi. Capo, mi sono dovuto spostare giù perché ti sentivo male. Vediamo un po' se mi ascolti tu bene. Io ti sto ascoltando bene, mi ero spostato per ascoltare bene a Vittorio poco fa, e adesso sono andato lì. Aspetta che mi rimetto. Ecco, così. Così, ecco. Così mi dovrete sentire bene, e anche gli altri. E vabbè, si sa, alle volte non sono bene in sonda, o che dipenda dal mio o da un altro baracchino, c'è sempre questa difficoltà alle volte, anche perché ormai sono baracchini che hanno i suoi anni e di conseguenza i componenti, qualche piccola variazione dei valori l'hanno avuta e di conseguenza possono fare anche queste cose. Comunque vabbè, ritorniamo al nostro discorso, riprendi. Va bene, sto uscendo, com'è la radio? Va bene? Ehi, capo, Vittorio, fa un passaggio. 1, 2, 3, provete che mi chiama Alan 68. Di quanto c'ha? 15 anni di più. Ah, va bene, va bene, va bene, ultima radio. Sì, Giulio, è così, dai, no. Ma per farti capire che non tutti che ci prendono confidenza, ma una persona grande, anche se parliamo in questi giocattoli, non è detto. È come Dodelia, a testa ce la studio del tu perché siamo al baracchino. A darti di lì a baracchino è come a te Giulio, è come a Gio Maria, vedo di lì, non mica vedo del tu perché è amico mio, è come a altri, ecco, altri CB, tutto qua, vabbè, comunque no, non c'è problema. Interessante che si rispetti e che mi rispetti, no? Poi del resto è tutto ok per me, non c'è problema. Avanti, a Rita l'abbiamo lasciata in parcheggio, vai Rita, dammi del lì però, Mi scusi, ma mi stavo mangiando un bel tiramisù. Beata te, adesso non gioco che non le mangio. Non l'ho fatto io, l'ho comprato, eh. Vabbè, l'ho comprato, come quello là che va al carrozziere, che si fa aggiustare la macchina, guarda che soldi li ho rubati, dice al carrozziere, a me non me ne frega da dove li hai presi, intanto che tu mi paghi a me. Appunto. Nel frattempo che ero in parcheggio mi sono mangiata un pezzo di tiramisù, da. Ma fatto, ma l'hai visto lui, ah, Rita, e non c'è in Rita. È positivo, però io vi devo lasciare adesso perché qua ha aperto le serrande del negozio, ha già sollevate e niente, se no il discorso mio lo ascoltano dentro il negozio. Vi devo salutare, dai, vi devo lasciare, vi devo salutare. Ciao Giulio, ciao Vittorio, Rita, Luca, mi pare che non ci sia altro, dai. Vi devo lasciare perché il negozio sta aprendo, ha alzato le serrande e allora mi approfitto a salutarvi, dai, tutto alle prossimine. Aspetta che qua abbiamo un tecnico, vediamo un po' se ci può aiutare Vittorio. Oh Vittorio? Oria. Ascolta, Luigi ha un problema. Entra lì vicino a casa sua, c'era, cioè non a Isa, un supermercato, e lì entra nell'ostello, diciamo, dai, dove parlano? Citofono? Cos'hai lui? Cos'hai? Un impianto di cos'hai? Di stereo, no? No, è l'impianto che dice tutta la pubblicità della nonna Isa e ci parlano anche loro, anche quando è spento, però lo si sente nelle casse, capito? Entro nelle casse anche quando è spento questo corso. Vabbè, basta. Mi sta sentendo. Basta, ti do un po' di cosi toroidali, li metti prima di entrare nella cassa, nel caso, ti do degli anellini magnetici, li fai tre giri, una cassa alle casse, prova se elimini così, se no sull'alimentatore dell'amplificatore. Ascolta a me, poi c'è un altro, il vicino che è venuto a abitare da poco, ha piazzato l'antenna, non prendeva, non c'è la parabola, c'è l'antenna normale, ha messo l'antenna normale. E cosa è successo? Siccome non prendeva, perché qua ottava non prende, allora si è comprato uno di quegli alimentatori grossi per antenna, per televisore. Ecco, e questo adesso sono io a minimo di watt e gli entro proprio la voce chiara chiara nella televisione. E quello cosa si può fare? Mettermi al televisore e montarci un'induttanza prima del circuitorio, se non gli fai righe entri solo sulla voce, senz'altro manca il filtro LC di soppressione di radiofrequenza sul circuito per amplificatore audio, ho messo a Torino da 10.000 picco una bobinetta col traforo per blocco sull'alimentazione, già si può fare, sono cosette, bisogna aprire due minuti e si fa. Aprire, non ho capito, dove si bisogna, ma se sono già pronte queste cose da mettere o cosa bisogna fare? Ah no, il televisore, da vedere senz'altro c'è qualche televisore Seleco, qualcosa di quella razza lì, che non hanno i filtri contro le interferenze radio. Dove bisogna metterlo dentro il televisore? Sì, addirittura secondo il televisore che c'è già il posto, nella serigrafia c'è già il posto da mettere C302, C301 e la bobinetta che hanno fatto il ponte, c'è già il posto per metterli, ma non li hanno messi per risparmiare quattrini. Questo invece, questo del negozio, cosa devo fare per questo del negozio? Devo prendere queste cose e mettere dove? Fargliele mettere nella cassa, nelle casse, all'ingresso delle casse. Sono anellini magnetici più grossi di una fede da matrimonio, stacchi il filo, gli fai due giri dentro, fai entrare e riuscire dalla bobina il filo, ci fai un paio di giri e li ricolleghi e questa cosa blocca la radiofrequenza, questi anelli magnetici. Adesso ho capito, io ne avevo trovato uno in una cassa e non sapevo che cosa serviva questo anello, una specie anello bianca, grigia, c'era questi filetti, ma che cosa servirà questa cosa? Una cassa di un autoparlante, di qualche cosa l'avevo trovato io qua, e io l'ho tolto, su un baracchino, su una cassa c'era questa cosa, io l'avevo tolta. E gira, questa è una cosa per togliere i disturbi, scommetti. Beh, blocca la radiofrequenza, quindi su altoparlante di televisori, insomma, spesso negli televisori entra sul circuito preamplificatore. Poi una prova da fare, se moduli in FM non succede in AM, senz'altro è così. Uno è sempre... L'AM è una cosa maledetta. Ma serve anche per metterlo per esempio in camion prima della colonia delle cose, serve anche per quello allora questa cosa? Allora, prima romperti le balle della centralina, soffrire l'alimentazione centralina, si mette dappertutto. esistono, c'è gente che impazzisce, il tachigrafo, sull'ingresso dell'alimentazione del tachigrafo, si mette dappertutto perché c'è gente che giocando sbatte anche 1000 watt in camion, anche se busca le antenne fatte serie dagli Stati Uniti che reggono anche 15.000 watt, però questa radiofrequenza rientra, si addizia una nei fili e va a creare problemi se non ci sono i circuiti adatti a bloccarla. E dove le trovo questi affari qua? Dove le posso trovare? Ma io ne ho perché schermiamo apparecchi che hanno problemi, li montiamo, quindi ce li abbiamo. E niente, facciamo arrivare da fuori, alcune ce le manda la Sony, eccetera, già si buscano. Al limite per dartene qualcuna per provare se ti va bene, te la posso anche prestare io, poi se è così le ordino e ti dico il sito dove ordinartele, via. Ma anche i motorini che passano a fianco, tutti quelli ci toglie, quei disturbili? Soprattutto anche, sì, anche i così impulsivi diminuisce, anche le interferenze impulsive, ma soprattutto la radiofrequenza blocchi col toroide inferrite. Ho visto dove ce l'ho buttato quella affare, ce l'avevo più di là, ce l'ho buttata perché non capivo che cosa serviva, ne ho tolto io da un coso, ce l'ho in macchina. E forse ce l'avevo in quegli autoparlanti che ce l'avevo nell'impianto che avevano fatto in vettura, lo sai, non me lo ricordo dov'era. Comunque l'ho tolto io questo affare qua, questi anellini, ho detto cosa ci fanno questi due anellini, uno da una parte e uno dall'altra in questi autoparlanti. Adesso ho capito a cosa serviva, erano grigi, tipo rivestiti in plastica, così è. Ah beh sì, a volte certo, perché se no sono conduttori come il metallo, sono inferrite come quella delle antenne, delle radioline, è un materiale conduttore come il ferro. Allora a volte le sono plastificati in maniera che se toccano da una parte all'altra non creino dei cortocircuiti. Mi pare non arriva nei fili, o fili c'hanno queste cose? No, è il filo che va dentro, all'anello riesce, quello con cui devo ricollegare. È positivo, io meglio trattate due dighi senza giù una fatta, va. Sì, vabbè, ma già si trovano le ferriti per filtrare. Spesso sono in tutti i nuovi apparecchi, quando apri sono dappertutto, sul filo d'alimentazione, sull'altoparlante, sono i fili che vanno al microprocessore, ormai li mettono dappertutto perché con questi telefonini che ci sono in giro saturano la radiofrequenza. Metti il telefonino di fianco a un wifi o a un CD o a un computer, se no lo grebbi. È positivo, visto. No, adesso che me l'hai detto, non so come fare, ma tu c'è qualche laboratorio, c'è qualcosa per passare, per avvicinarsi? Sì. C'è la stanza della Sony. Ma cosa devi fare? Perché televisori? Sì, c'è il computer, tutto. La principale è l'assistenza. Telecamere, televisori, video, wifi, DAT, mini disc, eccetera, eccetera. Dove ce l'hai il coso? Via Mosca, centro assistenza Sony Videolab. Via Mosca è sua per andare da, come si chiama lì, Arrezzito, quella zona lì. Sì. Tra via Parigi e via Madrid c'è, cioè via Mosca, in pratica c'è il bar Ginepro di fronte al rifornitore in via Budapest. Se stai entrando a Sassari prima ripassi in più. Lì c'è Guido Garau Arredamenti, bim bum bam, sali lì, trovi il bar Ginepro, la Sidis, la banca commerciale e poi il palazzone isolato che di fianchi ai parcheggi, dove spesso vengono quelli dell'ippodromo a lasciare i camion, no? E c'è il palazzo verde che è isolato. Di fronte a dove piazzavano sempre il circo anni fa, ormai stanno facendo la chiesa. Positivo, ho capito. No, ci passo perché mi interessa quella cosa, che permettermene una in camion a me. E ci passo così per niente, poi voglio vedere come faccio per risolvere il problema, mi faccio dire che marca è la televisore di quest'altro amico che dà fastidio, che gli do fastidio io, e vedo un po', dai. Vedo un po', no, ci passo un momento, Vittor. Ci passo e... Niente, perché mi interessa metterlo pure io una cosa del genere nella coronnina del camion, dai, per eliminare un po' la centralina, un po' del rumore che mi fa quando metto in moto. Sì, il televisore del vicino, se l'audio, la tua voce entra, anche se abbassano il volume, stai tranquillo, al 90% un televisore marchia più di 10 anni ed è col gruppo Seleco, Zanussi, che è la stessa roba, poi che si è marchiato Rex, Stern, Seleco, Bim Bum Ba, sempre la stessa roba è dentro, lo stesso telaio. E in quelli non hanno montato i filtri di soppressione di radiofrequenza proprio per risparmiare i soldi, perché stavano andando male e già sono andati male. Ma questo è nuovo, mi, questo si è sposato da poco, mi, questo è sposino, mi, è da poco che è venuto a abitare, si è sposato da poco, questo c'ha televisori recenti, nuovi, penso io, che gli ultimi usciti, capito, solo che non prendeva bene e ci ha messo un amplificatore abbastanza grosso, amplificatore d'antenna, e con questo riesce a prendere bene i canali. Sì, ma normalmente non, gli amplificatori tirano dentro disturbi sulla portante video, cioè al limite gli fai righe o addirittura diventa nero il video, difficilmente danno problemi sull'audio. Sull'audio si entra normalmente direttamente sul televisore, sul telaio. A me per esempio se metto a fare le righine mi fa con l'amplificatore solo, dai. Ma con la parabola, cosa così, nessun problema. Invece se gli do un po' di watt mi fa un po' di righe. Si vede, ho detto la televisione però mi fa delle righine, a me però, a me personalmente, con l'antenna, con l'alimentatore d'antenna, dai, è stato inserito, me lo fa. Però poi il cambio col telecomando, attacco l'altro, come si chiama, la parabola, allora non fa nessun problema di niente. Però mi fa solo righe a me, capito? Solo righine mi fa. Ma me lo fa quando gli do un po' di watt però, se no non mi fa niente. Beh, non normale, se tu c'hai un'armonica, una spuria che so, è 70 volte più bassa della potenza che usi, se sta uscendo con un watt, 70 volte meno di un watt, l'armonica che tiri fuori è abbastanza bassa, potrebbe non dare fastidio, ma se usi 10 watt diventa 10 volte più forte l'interferenza, se usi 100 watt diventa 100 volte più forte, se usi 1000 usa 1000 volte più forte l'interferenza, quindi è proporzionale, quindi ecco perché bisogna fare di tutto per uscire bene puliti. E per i microfoni preamplificati o smanettare l'LC non è il miglior sistema per uscire puliti di modulazione, di emissione. Infatti molti apparecchi come quello che stavo usando io poc'anzi non uscirà bene di radio, ma stai tranquillo che se prendi l'analizzatore di spettro sta uscendo con una pulizia unica. Meglio ti fa uscire di schifo di radio, ma non va a invadere il terreno degli altri. È positivo, positivo, no, così mi interessa. No, comunque ci passa un momento, mi interessa anche per mettermelo in camion io, una cosa del genere, capito? Mi interessa anche a me, dai, devo chiudere perché qua ho aperto il negozio, dai. Dai, io vi risaluto nuovamente, dai, ciao Vittorio, Luca e Giulio, dai, e Rita. Ok, ciao Luigi, ci sentiamo. Allora, facciamo parlare a Rita se c'è ancora. Rita, sì, sì. Sì, ciao Luigi, fatti sentire di più, vai, aggiustatelo questa cosa che devi rimediare. Ciao Gigi, ci sentiamo, da limite, un sabato ci faremo un salto, dai, se scende Franco, già te lo guardi. A limite ti metti d'accordo con Vittorio lui, ti metti d'accordo, te lo puoi fare da lui e via, dai, così non stai lì a perdere tempo. A limite ti facciamo prendere il suo numero se lui vuole, cioè se posso dartelo, ecco. Cioè, ti metti d'accordo, scende e ti fa quello che deve fare. No, io me lo voglio mettere in camion uno, me lo metto in camion, nella cassa del camion, uno me lo metto. Io ce l'ho già, per il soldo me l'ho buttato, due ne avevo di quelle anelli, due autoparlanti. E non sapeva che cosa serviva, io l'ho attaccati, hai capito? E ci sono da qualche parte, se li cerco, se non li buttate ci sono, ci sono sicuramente, se non sono dentro qualche busta. Io sapevo cosa servivano questi anelli, i vestiti, erano pesati, una roba magnetica dentro, perché uno l'ha aperta a vedere, e c'è una roba magnetica dentro, capito? Ehi, no, vabbè, sto dicendo da mettere dentro la TV lui, poi se te la c'è qualcuno per te è un altro paio di maniche. Tu metti d'accordo e scende e lo fa lui, dai, via. Visto che è del mestiere, così ti spiega un po' di cosette. Dai, già al limite ti faccio avere il suo numero, così lo contatti via telefono, non ne parlate qua via radio, dai. No, per me no, ma per la televisione mia, io vedo bene. Per quello sto ecco. Allora lo voglio far mettere, io capito. Ehi là, dove disturbi? Ho capito, non è per te, dove disturbi? E quello sto dicendo, per quello che disturba, capito? Infatti io ti sto dicendo che lo fa lui. Non so cosa, non so se tu lo sai fare, aprire una TV e mettere questa cosa qua. E quello ti voglio dire, siccome lui è del mestiere, e te lo fa fare da lui. No, no, no, io non ne apro di cose, no. Non ne apro io di cose così di televisione, no. Io posso mettermelo solamente, perché l'ho già visto come l'ha messo quell'affare in questi due così che io l'ho tolto, non, ho tolto perché non sapeva che cosa servivano, capito? E li ho tolti, non mi ricordo da cosa li ho tolti, c'erano questi due anelli, non riuscivo a capire che cosa potevano servire questi due anelli, capito? Adesso me l'ha confermato Vittorio e ecco, ho capito a che cosa servivano queste, che sono una specie di cavolata quella cosa lì, perché dovrebbe essere una cavolata, però me lo metto in camion perché quando giro sento un leggerino, non quasi, ma appena appena di cosa, così va meglio, io me lo metto in camion, me lo metto quello lì, me lo faccio in camion, sì, capito, a casa non mi interessa che non c'è nessun rumore, ma in camion io me lo metto, capito, e se lo metto io poi lo metteranno tutti i colleghi miei. Vedi un po', ti metti d'accordo con lui e vedi, già te lo risolve il problema, perché noi non capiamo niente, lui ha studiato e ne sa, e io perlomeno io non ne so, poi c'è qualcuno che ne sa così così, vedi un po' tu lui, dai, non c'è problema, io se vuole lui, io ho il suo numero e poi ti metti d'accordo. Dai, una sera passo a prenderti, ci andiamo assieme, se no Luca, una sera ci passo, ti prendo e ci andiamo assieme. Non c'è problema, non c'è problema per il numero, capito? E il numero di lavoro ce l'hanno tutti, non è numero segreto. Quello vanno a tutti, non ce n'è problema. È il numero dell'azienda, ce l'ho sempre io e non c'è problema, Luca. Vabbè, sì, giusto chiedere, Vittu, non è che posso dare un numero così agli altri. Vabbè, lui, allora già ci troviamo, ti do il numero così ti metti d'accordo, dai, ok? Ah no, ci vado direttamente, non ho mai capito, in laboratorio cose, ci vado direttamente, capito? No, ci andiamo direttamente, capito? Poi al limite me lo dà lì il numero, però ci andiamo direttamente. Parte il VB, se non c'è problema, dai, chiudo pure io, che devo fare roba. Ciao Rita, ciao Giulio, ciao Vittorio, ciao Luigi, già ci vediamo, non c'è problema. Stasera, ciao alla prossima, ciao ciao. Yeah, ciao ciao a tutti, dai, ciao ciao ciao, anche da parte mia, dai. Ti vedo anch'io, ciao ciao. Ok, d'accordo, ciao Luca, ciao Luigi, allora. Siamo arrivati io e Rita. Aspetta Vito un attimo, ti volevo chiedere, anche organi e rete che fai? Vito? Dimmi. Stavo chiedendo se aggiusti anche organi elettronici. Qualcosa vediamo, perché gente che suona, tipo Barbara Sanna, Mario Chiesa, quella gente lì, ne ho detto due, ma tantissimi, sono amici, quindi quando chi non gli va al minidisc e chi non gli va, ce li portano, che li abbiamo sempre visti, mixer, amplificatori, queste cose. Non è il lavoro specifico nostro, però li vediamo, perché spesso quando li porti a chi ha l'assistenza ti spellano vivo. Ho capito, no, io intendevo proprio un organo tipo pianoforte addirittura, a due tastiere eccetera, proprio quelli grandi, farfisa, capito? Della farfisa. Che problema c'è? Il problema è che non lo so adesso che cosa possa essere successo. Prima si illuminavano tutta una serie di LED, si illuminavano e suonava benissimo e adesso non va più. No, cioè si accende qualche LED mentre tutti gli altri rimangono spenti, dunque stando spenti no, non ci sono tutti gli effetti musicali, capito, tutte queste cose qua. Portala, ti diamo un'occhiata, se roba possiamo fare noi te la facciamo, se no ti consiglieremo a chi rivolgerti. È un po' un problema, Vittorio, sai perché? Perché è una cosa grande, è pesantissima, non è una cosa, non è una tastiera portatile di quelli, è una tastiera che parte, sembra un comò, tu per esempio ce l'hai un comò, così, quasi come un comò è grande, e dunque è una cosa pesante, hai capito? Non è semplice insomma da trasportare, anche se io ce l'ho il metodo di trasporto per, che uso per il mio lavoro, potrei caricarlo lì, insomma no, comunque staremo a vedere, dai. Ok. No, se è così allora è da vedere lì. Se non è, se non la puoi staccare dal mobile. Se amici ho 10 viti, la stacco dal mobile e ti porto la tastiera con i componenti, va bene. Io ce l'ho una cosa del una della Yamaha a doppia tastiera, ma è portatile, nel senso sì, peserà 30 kg, però insomma la porti a destra a manca, non è al mobile. La metti su un cavalletto di quelle portabili. Quando ho già capito quella serie da far fisa quale sono, erano sì, incastrate dentro il mobile, quindi no, quella è da vedere a casa, quella è da sbullonare a casa, darci un'occhiata, vedere cosa c'è e risolverlo lì. Ok Vito, vabbè, allora un giorno prendiamo appuntamento quando puoi magari ti liberi e staremo a vedere e diamo un'occhiata, o meglio dai un'occhiata. D'accordo, va bene, avanti Rita. Mi sa chiuso anche Rita, vabbè, io sto chiudendo, ciao carissimo, ci sentiamo. Ok, ciao Vito, ci sentiamo, ciao ciao. Giulio. Chiuso, pensavo che avevi chiuso Rita. Aspetta che sto facendo una ricarica, aspetta. Telefonino ti stai ricaricando, eh? Via.